Carino di viso, stavo dicendo che sei carino di viso. In quattro. Di tutto, uomo bello, moreno, di sinistra, in una città di Sassa, di Rallupreto. E Domenico? Buca per me. Tipo, stavo regolando una cosa, aspetta un attimo, mi stanno chiamando fuori, riprendo subito. Thank you. avevano già comunicato la segnazione, c'è arrivato qualcosa? Negativo, negativo, fra l'altro ho chiamato... Ah no, scusami, io pensavo che stessi parlando di un'altra cosa addirittura. No, no, no, no, no, ancora no. No, no, no, non mi hanno fatto sapere niente. Pensavo che stessi parlando dell'esame, siccome stamattina ho telefonato giù a Cagliari e stavo parlando con l'ingegnere, capito? Pensavo che stessi parlando di quello. No, di quella cosa lì, perché io avuto non ho sentito a vedere quando la devono fare questa cosa qua, i giorni, se sapete di giorni tu. Dovrebbe essere registrato il break, dovrebbe essere il giorno dopo la cavalcata, adesso non so esattamente, però te lo faccio sapere con certezza. Avanti il break, la buonasera, buonasera Salvatore. Ciao a tutti, ben sentiti. Ciao Antonio, ciao l'altro amico e non ho copiato il nome. Attivo dell'amico che ti manda avanti è Gianluca da Porto Torres, avanti per Salvatore. Scusa, non ho capito il nome attivo. Salvatore Salvatore, sei in compagnia comunque Salvatore mia e dello Sparviero e di Gianluca che ti rilancio, avanti Gianluca. Ciao Salvatore, ben sentito, un collega Papatango, un fattonutista, avanti Claudio. Sì, io riprendo, mi saluto, a vaccinare, se ci siete dopo, altrimenti fatevi buon consiglio con tutte le persone. Ciao Salvatore, ben entrato, e cosa ti permette? Ciao, anche di Domenico, non so se l'ho sentito. Ci sentiamo. Domenico, riprendi, vai per Antonio Rode, per me è corretti. Ehi, ho dato un carico, io sono pronto anche qua, ma fino a salto tanto possiamo preparare per il trabacco. Trabacco, se mi posso fare un ti rilancio, ti lascio con Antonio Rode, avanti. Riprendo io? Ok, sì, saluto, ti sento un po' bassino, però riesco a copiare con attenzione tutto il passaggio. Ciao Claudio, ben sentito. Ciao, ciao. Prendi pure. Scusatemi se vi ho sovramodulato, Salvatore, stavate schiacciando Domenico, io riuscivo a sentirlo, ma forse né tu né Gianluca riuscite a copiarlo. Avanti Domenico. Ma perché ho cambiato l'antenna, Domenico. Cioè realmente stavo uscendo davvero male qua, considerando che sono in una zona molto alta, non quanto Claudio, attenzione, ma molto alta. E allora ho cambiato direttamente l'antenna, adesso se mi stai confermando che sta andando meglio, dai. Gli altri amici purtroppo non ti riescono a copiare, qua stai arrivando con un Santiago di 5 a picchi di 7 con una radio di 4, va benissimo. Ciao Claudio, ci sentiamo dopo, dai, cerca di entrare che ne parliamo. Rilancio a Salvatore. Tanto mi dispiace, non riesco a sentirlo io a Domenico. Mi dispiace, non so se lui mi copia, comunque i saluti eventualmente glieli rigirerai tu. Ok. Io ne approfitto un attimo e vado a prendermi un antistaminico perché ho l'allergia che mi sta facendo impazzire e ho le narici completamente tappate, forse si sente la voce nasina, è proprio perché ho le narici tappate. Riprendi Anto. Non c'avevi le dita nel naso, sto scherzando. Non so se riesci a copiare, ti rilancio, non so se riesci a copiare Salvatore. No, negativo, oggi negativo sono io. Santiago di 8-9 a picchi di 9, ti sento davvero molto molto bene. Salvatore, ha detto che non ti sente, non sente neanche te perché oggi è una giornata un po' negativa per la tua zona. Comunque, salita di Sant'Argia per lui, fin che posso ti accompagnerò, ti accompagno visto che sono l'unico che riesce ad ascoltarti. Avanti Gianluca. Attenzione Gianluca. Negativo. Domenico, quindi questa qua è la prima andata? Positivo, positivo. Ah, quindi mi confermi, dai, che la cosa è fatta, l'ho fatta bene. No, tutte queste antenne qua ce le ho buttate in un magazzino e stavo usando le più rognose, devo dire la verità, e non stavo ottenendo questi risultati come ben sai. Alla fine mi sono deciso, perché è un po' tribolo a salire su questo tetto, capito? sicurezza, però devi fare due salite, cioè prima sul tetto generale, poi devi prendere la scala, te la devi tirare su e devi quelle in acciaio a forbice che pesano un bel po', e dopodiché salire sul tordino dell'ascensore. Quindi era una rottura di balla che mi volevo evitare, finché ho detto vabbè dai, visto che sta facendo una giornata, ho chiamato Claudio, però ho visto che era impegnato, non le ho neanche detto della cosa, e quindi io me lo sono fatto da solo, dai. Spero che non mi cala, perché il tubo non è così grosso, eh. Ma però si sta alzando un po' di QRM, quindi ti sento, sta iniziando a scendere, perché c'ho QRM a 2,3, parti dal presupposto che io sono con uno smitter a cristalli liquidi, quindi serve davvero a poco. E sei sceso un po' sotto QRM, non ho copiato bene il passaggio, eh. Vediamo un attimino se è rientrato Salvatore. Salvatore, ci sei? Attivo, Gianluca da Porto Torres. Attivo anche per lui. Aspetta un attimo. Ok, prova a riprendere, dove? A Santiago 5, radio 4, 3, però sei chiaro e comprensibile. Non c'è problema, mai sentito così, soprattutto a questa distanza, perché ti perdevo già forse da Florina, se non sbaglio. Dicendo, questo è il primo viaggio, cioè fai andata e ritorno, veloce, quindi sempre voglio, dai. Vediamo un attimino se è rientrato Salvatore. Negativo per Salvatore, rilancio per Gianluca se non è andato via, che non c'è. Quindi adesso sarai almeno quanti sono? 25 km da qua. Negativo, Domenico, non ti riesco a tirare più fuori, eh. Sei sotto QRM, c'ho il QRM a 3 e tu sei sotto. Negativo, sento la modulazione, ma niente. Niente, se mi cupi, dai, buon proseguo di trabacco e ci sentiamo alle prossimine. Magari anche stanotte all'ora di rientro, di solito sono qua. Fai chiamata e dovrei esserci. Se rimango in radioascolto, se riesco a tirarti fuori di nuovo, ci salutiamo meglio, dai. Ma ciao, sono riuscito a malapena a tirare fuori, ciao. E via, alle prossime, dai, ciao ciao. Attenzione canale 10 per chi ne ascolto. Dammi un controllo di segnale, Salvato, guarda se è cambiato rispetto alle altre volte, se mi senti un attimino meglio. No, aspetta che mi sposto, così riesco a vederlo smettere. Allora, ok, dai, fai il passaggio, ti guardo. Guarda l'incollata che gli do sulla destra, hola, hola, hola. Ok, è 30. Lo stesso segnale che arrivi tu. 6 e 30 perché questo qua non ha altro, quindi è 6, 9 e 30. Ho cambiato l'antenna, prima ho provato a vedere se con la Sirio riuscivo a sentirlo. A Domenico, recuperavo in segnale, però purtroppo era già immerso nel QRM. Quindi vedevo lo smitter che era attorno ai 3-4, però non capivo nulla. Papà, guarda, sei cambiato dal giorno alla notte e hai recuperato almeno 2 punti. E con cosa sei adesso? Con la Game Master? Papà, sono con la Game Master di portante 10 watt. Papà Roger, ma che Sirio hai perché tu? Game Master Turbo, la solita. No, negativo, che Sirio, qual è il simetro che hai cambiato l'antenna Sirio e hai messo l'altra? Cioè, stavo andando con la KF prima. Ah, ok. Quanti radiali ha quella lì adesso? Che te lo controllo con l'8.50. Io? Guarda un po', ora, ora, ora, 1, 2, 3, prova, guarda un attimino come sto arrivando adesso. Sì, 9.40 liscio con l'8.50, questo non scherzo, bellezza è quella, perché c'ha l'ultimo pezzo dove c'è poi la gabbia elettrostatica che è composta da due cerchietti, dove c'è un segnettino fatto con un pennarello dalla fabbrica, tu lo metti a quell'altezza, serri tutte le viti e non c'è altro da fare, è stazionare uno e uno, e infatti vedi, non fischia, non fa casino, non fa niente, e non solo, con la ciabattina riusciamo a ottenere il top del risultato. Ottimo segnale veramente, ma c'è radiali? Appunto, questa è la 2008, è la stessa antenna che ha Fabrizio, precisa ed identica, spuntata. La Sirio 2008, che esce in due varianti, questa qua è la 2016, che ha 16 radiali. Bene, bene, bene, ottimo, ottimo per la truppa. Con questo mi ascolti sicuramente meno amplificato, il segnale sarà uguale. No, no, il segnale non ha... Non può migliorare perché è incollata. Ma per la radio è sicuramente inferiore. Preferisco questa, ma non perché sia più bassa, perché evidentemente su queste frequenze riesce a trasmutarle la cassa del baracchino. L'altra era tutto non si capiva niente, capito? Ma perché è questo qua che c'ha la cassa che non serve a niente? No, quando ce l'avevo troppo alto. Adesso l'ho abbassata più. Perché di là c'è l'MC 80, capito, sul 140, non c'è l'MC 60, invece qua c'è l'MC 60, è per quello che piglia di meno, ma chi viene molto più basso, dai. Ma vabbè, mi sto ascoltando, ma sto facendo cose, non posso riprendere. Ci sentiamo più tardi, se coincide, tenete le plus. A te, Serato. K3, ok. Ok, quindi è della Sirio anche la tua, Otto? Sì, Roger, questa è la prima 5 ottavi che ho preso ed è una Sirio 2008. L'avevo comprata da Grassi prima che cambiasse il negozio, non mi ricordo neanche quanto me l'aveva fatta pagare. Però è un'ottima antenna, tant'è vero che è quella con la carica sotto campana di plastica, di plexiglass, tu vedi l'avvolgimento in rame proprio. E obiettivamente è un'antenna che ha un solo difetto, cioè lo stereo centrale è molto fine. Se tu prendi questa e la unisci alla manovra turbo, riesci a ottenere un'antenna buona e una cagata. Perché questo è ottimo il piede d'antenna con l'innesto a radiali a vite, mentre invece la turbo c'ha quella specie di sistema col trattorello sotto e i viti passanti finissimi, quindi si staccano dopo un po'. Questo c'ha i radiali pieni, mentre invece la turbo ce li ha avuti. Però la turbo ha lo stereo centrale che è alluminio pieno, bello grosso come bordi di tubo, mentre invece questo qua non serve a niente, proprio è molto molto fine. Ho capito. Infatti quando si era trattato di scegliere i modelli d'antenna avevo preferito infatti optare per quelle fibra di vetro proprio per avere la massima flessibilità e poi soprattutto senza radiali, perché per i mille motivi che ho avuto già modo di dirti. Non so se poi dopo quella che ho comprato io di modello ne hanno tirato fuori qualche un altro più performante, non ho idea. Comunque è una bella società, mi sembra, è una bella ditta. Da Sirio, assolutamente sì. Assolutamente, poi non so se a volte alcune antenne abbiano cambiato addirittura produttore, perché alcune antenne, che adesso non vorrei sbagliare, ma la Sirio dovrebbe essere della Intec anche, cioè la Sirio come fabbrica, credo che faccia capo poi alla Intec. Non ne ho la più pallida idea io, non ne ho la più pallida idea, però mi sono trovato benissimo con questa. Cioè si è piegato il supporto, il palo, ma l'antenna non ha mai preso un colpo, guarda, la vedi piegata a U che asseconda le raffiche del vento in qualsiasi direzione, ma non veramente bella resistente. Ma com'è, innesto centrale oppure a spalla laterale? Ma le cose, le due staffettine per agganciarsi lateralmente a un palo. Ah, no, questa qua ne ha. Le altre, ma è davvero una bella antenna. Aspetta, che qualcuno sta facendo danno. No, è una bella antenna, ripeto, l'unica cosa, l'unica fecca è questa. Oh. Lo stelo centrale che è un po' fine. Ti stavo dicendo, Claudio, se sei ancora in ascolto, ma sicuro che non ti viene a prendere neanche una matta caffè nel caso? No, no, no, no, non li voglio, e poi sto prendendo antifiammatori, no? Sì, vabbè. Basta non esagerare, un bicchierino già ce lo possiamo prendere. A te Salvatore non lo chiedo neanche perché so che tua moglie non ti manda. Guarda, mia moglie, per non sbagliare, in questo momento sta ridendo perché se ne sta uscendo per un'allegra serata con la figlia e i nonni. C'ho ragione, esce con la famiglia e ti lascia a casa. Ui, ui, Salvatore, Salvatore. Ho sentito un break, scusami un attimino, avanti, chi c'era sotto? C'era, però non ho copiato il tuo nominativo, è avanti. B2, chi sei? B2. No, B2, tutto a posto. Santiago di 5, una radio di 3, ti sentiamo, non so se riesci a tirarti fuori Salvatore. Avanti, Salvatore. Cattaci, un segnale di 4. È un po' disturbato, però. Ciao, B2. C'è anche Claudio, ok? Negativo, Claudio ha detto che rimaneva in radio ascolto. B2, dove ti trovi? È ben meritato, dai. Buon fine di trabacco. Ti rilancio Salvatore, avanti Salvatore per B2. B2, buon rientro allora, che vuoi che ti dica, noi siamo qua comodi, seduti nelle nostre poltrone, ad ascoltarti, riprendi tu. Aspetta un attimino che proviamo a rilanciare per vedere se Domenico riusciamo a tirarlo fuori, perché c'è un punto lì che dovrebbe arrivare. Attenzione Domenico. Prego. Va registrato. Attenzione Domenico. Attivo. Avanti il break con la buonasera. Massimiliano mi è sembrato. Positivo, Massimiliano Bulldozer da questa. Ciao Antonio, ben riascoltato, ben sentito. E ciao Salvatore, avanti. Guarda un attimino se noti una differenza di segnale rispetto al solito, Massimiliano. Come ti sta arrivando che ho cambiato l'antenna? 9+25, è radio 5 perfetta, chiara chiara, bella, senza nessun rumore sottofondo. Ma come ti arrivavo prima, te lo ricordi? 9:15 eri. Ciao a tutti, ciao Buttato, buonasera. Papa, buonasera, ciao B2. Sì, Massimiliano, adesso ci mettiamo d'accordo con Claudio, comunque per quella cosa non c'è problema, una te la porto via. È positivo, non c'è problema, noi siamo qua, non ci stanno problemi, vieni, te la scegli, le guardiamo. Parodio, e poi se, ti ripeto, se la vuole quest'altra persona è possibile che me ne porti via due. Perché una devo mettere a casa, perché non ho voglia di spostare la cosa, la mantova. 2 chilometri, cioè il bello di quelle antenne sono proprio il peso, che davvero non pesano niente, quindi in punta antenne, in punta di palo non ti creano nessuna leva, nessun problema. Perché già quando è un minimo l'antenna pesa il doppio, se non il triplo anche, capito? Quindi sono belle per quello. Poi devo dire la verità, chi ce le ha ottiene degli ottimi risultati, non le puoi caricare perché si sciolgono, però fino a, diciamo, le potenze che gli diamo noi vanno benissimo. Sì, a voi le vanno bene, questo tiene 500 watt, mi sembra una cosa del genere, ma comunque vanno bene, vanno benissimo, tanto senza problemi. Tanto c'è anche Claudio all'ascolto, volevo dire a voi tutti, qua da canale 10, che il 28 giugno stiamo facendo il raduno, secondo raduno CB, capito? Giorgio, ma associato alla, alla manifestazione di cosa? Di Gigi o è una manifestazione a sé? No, l'anno scorso abbiamo fatto uno e quest'anno facciamo l'altro. L'anno scorso primo raduno e quest'anno secondo raduno, 28 luglio, non giugno, 28 luglio. Ma sempre di puro sangue oppure non c'entra niente? Sempre di puro sangue, sempre lui. Campa di Roger, e ci saremo con vero piacere, almeno da parte mia è sicura la partecipazione, dai. Per forza, non hai famiglia tu, sei un randaggio. Mi vogliono, non è che non ho famiglia, non mi vogliono, mi hanno scacciato. E tu invece vieni, a ti manda tua moglie. 28 di luglio, adesso anche se sono vivo ancora. No, è possibile che ce la fai, perché prova a chiederglielo da adesso, dai. Ti fai qualche lavattina in piatti in più ed è fatta, e magari ti manda. Ciao bulldozer, qualche giro di curva in più. Io vado al prossimo di concerto, stasera era violino e pianoforte, ma a me non piaceva. Mentre il prossimo che devono organizzare, che lo fanno alla, all'ex teatro civico di Sassari, a Sassari Vecchia, che adesso si chiama Teatro della Città, o come diavolo, boh, non ho capito come si chiami, cioè quello di Sassofoni, è molto molto bello, al prossimo ci vado anch'io. Papà di Roger, ma sai chi era il pianista, il violinista? Dovevo avere la locandina da qualche parte, non ti so dire in questo momento. Papà, Massimiliano, ti rilancio il mic, ma avete già deciso dove si farà e qual è la, la quota di partecipazione per caso? Allora, guarda, molto probabilmente si farà a Borole, di nuovo dove lì alle capannette, capannelle come si chiama. Molto probabilmente si farà lì, ancora comunque da decidere se lì un pochino più giù ancora. Papà, mi sembra che vi siete trovati bene, almeno dai filmati che ho visto e da come eravate entusiasti, sicuramente ne vale la pena, quindi il prezzo sarà preso a poco lo stesso, dai. Sì, positivo, positivo. Guarda, noi l'anno scorso abbiamo pagato, mi sembra, 45, però lascio perdere 10 euro che abbiamo fatto le magliette. Per essere la, il primo raduno tutti uguali abbiamo messo 10 euro in più, diciamo alla fine che il pranzo era 35 euro, tanto vai all'agriturismo, spendi 30 euro, questo è un ristorante, ne stai spendendo 5 euro in più. Abbiamo mangiato, Antonio, veramente bene, non so se Claudio te l'ha raccontato, ma bene, roba abbondante, la sala è bella, bel parcheggio, bello, siamo stati bene, cioè perlomeno io sono stato bene. Claudio era entusiasta, si voleva fare camionista, da quanto era stato bene. Bello, bello, quindi più siamo e meglio è, capito, Antonio? Radioamatori, gente anche che non parla al baracchino, che vuole venire, non ci sono problemi. Roger, Claudio non c'ho ragione. Comunque, bulldozer, sareste bene eventualmente a ricordarlo più avanti, perché più avanti ci sono più possibilità di riuscire a calendarizzarla l'uscita, capito? Allora guarda, tanto questa cosa si metterà a fare anche più avanti, lo faremo a, a dirlo più avanti, però l'abbiamo anche già messo su Facebook, capito, già ho fatto gli inviti e tutto. Cappa, vabbè, ci sarà occasione, qualche occasione in più comunque per ricordarlo a, a tutti quanti. Chissà di riuscire a, a partecipare. Che giorno cade? Ma non vorrei sbagliare, ma forse sabato a pranzo. Sabato a pranzo dovrebbe essere. Aia, aia, aia. Sabato a pranzo Salvatore c'ha il bucato. Oh, grande, tu ancora, tu non sai di che cosa stai parlando, ma prima o poi tu troverai una scarpa giusta, guarda, per il tuo piedone. Aspetta, forse c'è anche B2 che l'abbiamo lasciato un po' in parcheggio. Avanti, B2. Ecco ciò. Predicato bello. Non ascolti la B2. Avanti già. Buonasera a tutti, dai. Da Pierugno. Stavo ascoltando la similia che avete fissato la data. Che adesso vedo, se riesco a prendere un giorno di permesso le finisci, se no io sabato lavoro di mattina, ve l'avevo già detto. Ma magari, va, vediamo un po'. Già, le decisioni mica l'ho presa io, l'hanno organizzato loro. Niente, l'ho saputo oggi che era il 28 luglio, però la verità non guardate di che giorno è, che di che giorno cade il 28 luglio. Per carità, per me dovete cambiare, dicevo solo che riesco ad adeguarmi alle vostre, ben venga, se, nel senso che se a me mi danno, se no, positivo, positivo, ok, avanti Anto. Già, no, vabbè dai, sentimi un attimino, come ti sto arrivando già? Guarda se il segnale è aumentato rispetto al solito. Non è buio, aspetta. Comunque già, quando al 28 già ce l'hai il tempo per chiedere anche un giorno di ferie, mi avevo spostato un po' di turni. Guarda un pochettino come ti sto arrivando. Tu lo sai che il sabato da noi, per avere un sabato, tu ripetere i giorni che vuoi, ma non il sabato. Il sabato è sacro santo, non ti dirò di manco. Guarda, deve essere tutta una cosa grave, se no non te ne l'hanno, capito? Però vabbè, vabbè, non è abbastanza grave, scusa. Cioè, secondo il raduno CB della Sardegna, secondo te non è grave? Siete sovramodulati, tre Salvatore, avanti già. 9.25 qua arrivi, dai. A Roger. Vabbè, quindi non ho aumentato di segnale niente da quella parte. No, qua no, la verità è sempre uguale. Cavagava, Cavagava e Cavaroggero. Aspetta. Riprendi Massimilia. Positivo, là. Niente, Costanzo ci ha mandato questo invito su Facebook e l'ho letto stasera, questo raduno del 28 luglio, capito? E niente, addirittura ancora non si sa già se si fa l'amore o un pochino più giù, ancora più giù, boh. Ma sicuramente comunque si farà l'amore. Amore o più verso Sassari, non verso Anatabassi. Oh, quanto ci mettiamo a ritornare? Guarda, già, noi, allora, Morone sono 77 o 78 chilometri, ci abbiamo messo più o meno un'oretta, ma a livello di 110-120 km orari, un'oretta così, capito, non è lontanissimo. Vaga, vaga. Intanto poi ci organizziamo, andiamo in poche macchine. Non è che andiamo in 200 macchine, no, se poi una problemica se ne deve rientrare scende con la macchina sua, ma noi l'altra volta siamo scesi in 4 macchine. Interessante che chi guida non beva troppo. Quello è vero, quello è vero. No, io sono sceso con Vittorio Braccio di Ferro e un paio di birre già se l'ha bevuta, ma non più di tanto. Poi c'era Cosa, Giovanni Originale, che lui non tocca niente, con lui è andato Gigi e qualche altro. Poi c'era Parragicola, poi c'era Bombore, c'era Gaetano, c'era il figlio di Gigi, poi che cavolo era, boh, e basta mi sembra, ah è Parragicola. Lo sapevo manco che fosse venuto Parragicola, lo sai, mi è venuto nuovo, mi è suonato nuovo domenica quando l'avevi. Ma è venuto, è venuto. Se ne è tornato la giura, però. Sì, già bravi. Gigi si è fatto la strada a metà, poi ha volato da solo, non faceva. Cammina troppo. Cammina troppo, era buono, era un po' di più, ero d'estate senza aria condizionata. Non lo so, vabbè. Vai, Salvatore, per Gianni. Senti, ciao Gianni. Ben sentito. Riprendi già, dici qualcosa. Ciao Salvatore, ben sentito, cordialità. devo dire di abbassare un po' la radio perché si è strappata come al solito. Abbassa perché si è alzata probabilmente la potenza e stai strappando un po'. E che dirvi, che ieri, oggi sono state due giornate meravigliose. Ieri me ne sono andato a Gheo ed era come l'estate, c'era la gente a gogo, una fiumana proprio allucinante. E tutti i parcheggi occupati, perché dal parcheggio siamo stati mezz'ora girando. E poi ho trovato verso l'interno, ma poi abbiamo camminato un bel po' per arrivare alla passeggiata. Poi niente, oggi me ne sono andato a farmi un giretto in moto, sono andato a mettere benzina a tali che poi mi sono fatto un bel giretto con Marcolino. Via, adesso poi sono tornato a casa, mi sono fatto tutta la spesa, ho portato la spesa a casa, eccomi qua. A proposito, ma ieri l'hai festeggiato o no? Lo sa Marco? La pagava. No, io gli romantici io non li vedo, dico la verità. Vedo il compleanno, sì, ma l'onomastico non l'ho festeggiato mai, manco a casa. Sì, ma dall'ultima volta che sei andato a fare la cosa, Alghero, a mangiare ricci, già te li puoi togliere dalla tasca mia oggi. E quando sono andato a mangiare ricci? Quando si pagava 6 euro per due ricci, il bicchiere del vino e mezzo panino. E con la volta, toglieteli dalla tasca e fagliano un regalo a tuo figlio, ma quando mai? Non ho capito. Il primo genito maschio, anzi il secondo genito maschio, e non lo festeggia, non gli festeggia il compleanno. Guarda, a Marco non aspetto mai né il compleanno né l'onomastico, se no te la vuoi comprare la compro. Io per dire oggi gli ho comprato le figurine e diciamo non direi non è tanto, però sempre un atto di cortesia nei suoi confronti l'ho fatto. Gli ho comprato le gomme, siamo andati nello spirito, siamo andati e ha voluto le gomme per scuola, gli ho comprato quelle, quindi non sono tutti regali, tutti i soldi che devono uscire. Ah, Padrino, oggi sto scherzando, ci mancherebbe, già lo so che sei un padre affettuoso. Riprendi Salvatore un attimino, sono in QRX che sto facendo una telefonata a Fabrizio. Oh, scusate un attimo, riprendo io che vi saluto che è pronta la cena, dai. Vado a mangiare poi se ne ho voglia riprendo dopo, se no vi salutate. Buona serata e buona continuazione, passo in QRT. Ciao Massimiliano. Sentito, magari sentiamo dopo, buona carica, quando la farai. Avanti, Salvador. Che cappa, ciao Massimiliano. A più tardi se ritorni, a più tardi, ok, se no buon tutto. Oh già, lo sai perché Antonio Grode parla così? Perché gli stavo dicendo prima, proprio poco prima che tu entrassi, che ancora non ha trovato la scarpa giusta, perché il giorno che trova la scarpa giusta, altro che queste cose dovrà fare. Ma io già la scopo a 3 ore, già sentito tutto, è come se fossi dentro. Stavo ascoltando, dal punto che se ne è andato Claudio, ha detto che doveva fare cosa, non sapeva se rientrava, da lì sono entrato io, appena acceso. E poi ho ascoltato un po' prima di entrare, solitamente io faccio un po' d'ascolto. Buonasera signori. Signori. Sandro, ben sentito. Tassa, ben copiato, buon tutto. Adesso lo vedi che è bella la modulazione, è chiara chiara. Ok, ciao Salvatore, buonasera. Buona riassintito. Ok. ciao Gianni Doppio Rumo, buonasera, messina, ben ascoltato anche a te. Saluto Gordo se in ascolto, Massimiliano ha smesso che deve far carica, comunque se in ascolto, buona carica Massimiliano. Va bene signori, avanti. Aspetta un attimino, adesso ti sento davvero bene, sei quasi a fondo scanti, a fondo scala, Alessa, dammi un controllo che ho cambiato l'antenna, guarda se noti variazioni. Ok, ciao Antonio. Allora, fai un altro passaggio perché non c'avevo l'occhio sullo smitter. Qualitativamente guarda un attimino rispetto ai segnali con cui ti arrivavo prima. mutta e guarda un po' modulata. Aspetta che vedo di... Ora, ora, ora. Ok, ok. Allora, il tuo rapporto è migliorato. È migliorato sia di segnale che sia di modulazione, perché ti ascolto più chiaro. Più chiaro. Più chiaro, limpido. Il tuo rapporto è 9,5 con leggeri picchi. Con leggeri picchi positivi, quindi siamo a 9,7, 9,8. 9,8. Hai migliorato, hai migliorato, Antonio. Se tu 9.30, cioè o meglio 9.20 a picchi di 9.30 con una radio di 5 amplificata con echo. Invece io quanto che arrivo, Sandro? Ma guarda, più o meno avete lo stesso segnale già, 9.5, soltanto che Gianni il tuo segnale è stabile. Stabile. Invece quello di Antonio c'ha questi leggeri picchi positivi. La radio è sempre 5, normale. Normale. Antonio, con quanti watt sì? Con 4 circa. Watt più, watt meno. Anzi, guarda, adesso se lo metto proprio a 4,4. 4 watt. Più o meno siamo lo stesso allora. Io sono... No, di meno forse. 3 watt e mezzo sono. 4 watt non ci sono. Ah, no, scusami, adesso c'avevo il baracchino a rovescia, ti dico la verità, erano 2, sono a 2 watt. Va bene, già sta andando bene, no, Antonio ha migliorato molto, ok. Sono ancora per Mike. Qualcuno? No, ero io. Ha detto, vabbè, da nuovo. Invece da parte mia il tuo segnale è identico, in compenso hai mega profondità acustica stavolta, anche se l'eco a volte tende a essere un po' troppo invadente. È troppo, direi. Ok. Ok, dai, togliamo l'effetto, così come va? Molto meglio, chi è che lunedì lavora? sono col mic normale, palmare, è come che stessi usando un mic amplificato da base. dai, che sentiamo tutti i discorsi. No, per dirmi quanto diciamo è sensibile questo mic, diciamo, a parte diciamo l'apparato, diciamo la radio, che fa tutto lui. Dice, lunedì lavoro. Sì, no, c'ho mia figlia qua che è al telefono lì e stava parlando, quindi evidentemente con qualcuno, diciamo, stava comunicando che lunedì lavora, diciamo. Per farti capire che si sente molto, capito? Che microfono è? Non palmare. Il microfono palmare proprio che danno in dotazione all'apparato già. Forte? Ehi, vabbè, diciamo che è un microfono tutto particolare, dentro c'ha il suo circuito con i vari componenti, la capsula, quelle piccole tipo quelle capsule che usa l'MPB25, l'MPB4, diciamo capsule a condensatore, diciamo, dai, comunque, e poi tutto il resto. Sì, ho capito. Comunque è molto potente la radio, sembra spinta da qualcosa. Beh, spinta perché adesso sta andando col doppio modulatore, logicamente, capito? Adesso sta subentrando il doppio modulatore. Ah, ecco. Grode, io il segnale da partita l'ho cambiato. Gianni, adesso ti sei abbassato, adesso sia il 9 spaccato, va bene. Salto. Bellissimo, dimmi. ti consola, io ieri ho passato l'intera giornata sul tetto. Ehi, farai. No, vabbè, già fa sempre bene un po' di allenamento, vabbè, a parte quello allenamento già ne faccio, non c'è problema. Già sono sempre, diciamo, in continuo allenamento, in continuo movimento, però sai. Tutto bene, va bene, dai, no, no, perché c'ho Giorgino qua, che cazzo mi sta commiserando, fammi andare, fammi riscaldare. No, io ho fatto gli ennesimi tentativi per provare a buttare giù un po' di stazionarie nell'antenna, nella verticale, quella chiusa per l'HF, e ho provato anche ad allungare con un cavo, eccetera, eccetera, quindi l'ho portata giù e rimontata due volte. Però niente, dopo tutti quanti questi tentativi e queste prove, alla fine il setup iniziale nuda e cruda, così come è stata concepita, è quello migliore, perché in ogni caso il punto fondamentale rimane l'altezza della distanza dal polo caldo al piano di massa, che deve essere superiore a quella che ha adesso, perché comunque c'è forse neanche un metro e fa lo stesso difetto alla fin fine che faceva questa qua di antenna con la quale sto parlando adesso, la Sirio, che fino a che non l'ho portata a 3 metri sopra il piano di massa del torrino dell'ascensore, aveva comunque sempre le stazionarie alte. E siccome le specifiche tecniche anche che hanno rilasciato quelli dell'accordatore da palo da dove l'avevo acquistato consigliano comunque di avere una certa distanza, una certa elevazione dell'antenna rispetto al piano di massa per far funzionare al meglio l'accordatore, e appena un attimo troverò un palo di almeno altri 2 metri per poterla sollevare e quindi comunque ottimizzare il segnale emesso. E basta, prove ne ho fatto veramente tante, forse anche troppe, guarda. Va bene, ma diciamo che anche quello ti porta, diciamo, a sperimentare, diciamo, e a andare oltre, diciamo, sai benissimo che non si finisce mai di imparare, piccoli accorgimenti, piccole cose, diciamo, che poi pian piano acquisire. Va bene, ma adesso sei con l'accordatore da palo o io con la verticale? Sono con la... No, senza accordatore da palo, sto lavorando con l'antenna della 27, con la Sirio. Va bene, io lo so, con l'accordatore da palo è molto più delicato, capito? Molto più delicato. Vabbè, comunque, tutta esperienza che si acquisisce. Va bene, Gianni, doppio Roma. Io sempre qua sono. Andavo. Vabbè, ma perderci una giornata con quel bel tempo, ah. No, io la verità me la sono a Targhero ieri, stava benissimo. C'ero oggi che ho messo la presto. Io sono andato a farmi una passeggiata, ma sta di un bene. C'era detto la gente di spiaggia, a petto nudo e pantaloncino. Sì, ma anche oggi ho visto che c'era qualcosina, che sto sceso al ghiero, ho messo la bagnola giù al ghiero, sono uscito a trovarla, tutto ok, tutto a posto, abbiamo fatto un po' di miglia, va benissimo, perfetta, e ho visto che c'era gente. Ah, sei uscito in bagno? Sì, abbiamo messo al bagno, la tengo lì al ghiero. Ah, e adesso come le trasportate in macchina? No, ho in campagna, l'abbiamo caricata, lì c'è stato il motore, tutto, messo in acqua, va bene. Tarato nuovo? No, no, motore nuovo, nuovo ripacca, ancora con lo celofan. Te l'hanno cambiato, meno male sono deciso. Sì, no, perché c'era un problema sul circuito, diciamo, di raffreddamento, ma adesso dovuto, loro mi hanno detto che c'era un problema di circuito di raffreddamento, adesso dovuto, diciamo, senz'altro da qualche difetto, diciamo, di casa madre, non lo so di che cosa, comunque, adesso si arrangeranno loro. Cazzo. Quello che ha messo è la stessa marca, stesso modello. 40 in rude. Caraga. Sì, vabbè, tutto a posto, a pescare, niente. No, sono sceso soltanto giusto per provarla. Per provarla, piazzare tutto quanto, perché poi mi hanno avvisato che era tutto pronto, dovevamo sostituire, allora sono sceso, ho deciso già di lasciarla lì al Ghero, siccome al Ghero c'è un paio di amici dove ce l'hanno anche loro, quindi per tutta quest'estate la lascio lì, faremo qualche uscita, qualche pescata lì di Alghero. Alghero, insomma, sono già zone molto, molto più migliori già. Anch'io se vai verso Bosa c'è da pescare, se vai verso Capocaccia, non sotto, troppo sotto, dove c'è l'allevamento delle orate si pesca bene. Io tutte quelle zone le ho fatte, sono andato anche a Pizzoni, Alghero, abbiamo preso 30 kg con questa ricoria. Sono zone molto molto più pescose, adesso non so se riguardo diciamo, perché c'è una fauna marina diversa, però non lo so, è molto più pescoso. Va bene, dai, Salvatore. Ma, sì, belle, si prospetta una bella estate, mi sa, accidenti. Io oggi mi ha letteralmente sorpreso, ero in moto praticamente tutto il pomeriggio, il caldo che ho preso, porca miseria, non pensavo, sì, pensavo una bella giornata piacevole, ma cavolo, il caldo che ho preso oggi in moto, da fine maggio era, altro che fine aprile. Che a Salvatore anche sono uscito in moto e ti dirò che col giubbotto si sudava, c'erano 30 gradi, perché a me io c'ho il termometro anche nella moto, 30 gradi, in certi punti anche 31 gradi. Sì, ma avevo accennato, in questi programmi di sera avevo accennato, dice che c'è, è arrivato questo caldo, diciamo, afoso lì dall'Africa, dove sta arrivando, quindi mi sa che siamo alle porte dell'estate. Vai che ce n'è, se... Cavagava, e allora mi pescate a nastro qui quest'anno, Scusa, ma nastro, cioè se parli di volo amatoriale lì già non è giusto il fine settimana, sabato la domenica, capito? Giusto così a livello amatoriale, giusto il gusto, diciamo, di farti una pescatina e il gusto di metterti in padella, diciamo, sulla graticola, quello che tu veramente, diciamo, hai tolto fuori, ma non più che altro. E magari se c'è qualche pesce carino anche per metterlo nell'acquario. Ah, quello senza ombra di dubbio, guarda, quest'anno voglio rinnovare completamente, guarda. Alessà, ci sono le donzelle lì che sono un bel colorate, lì ne peschi parecchi, allora peschi un bel donzello, te lo sto già dicendo, poi peschi barchette e sarraine, se vai sotto costa, se invece vai verso il largo, ci sono le pistone, ma deve essere una giornata molto col mare molto calmo. Se usi volentino con piombo da mezzo chilo come abbiamo fatto noi, cose, le canne elettriche, col mulinello elettrico. Ti fai a beffa, perché guarda, con questo amico mio ci siamo divertiti, però la verità a lui gliel'avevano segnato nel GPS, capito? Gliel'ha segnato un amico e ci ha porcellato la rotta. No, lì come punti diciamo che sono problemi, non ne ho. C'ho questi due amici che sono di Alghero, quindi hanno la barca, diciamo, sono nati sulla barca, quindi figurati per punti, diciamo, non ne ho problemi per quello lì. No, ma ho l'intenzione di procurare una NASA e buttarci dentro delle cosse e poi vedere un po' che cosa ne tolgo fuori, capito? Perché ho sperimentato che usando, diciamo, il volentino con l'amo, dopo, diciamo, che recuperi il pesce, lo butti dentro e il pesce ne soffre. Sì, quello sì, le salame ne salgono con l'embolia già bocca aperta e già cribbate. Guarda che io mi sono costruito là, questo amico mio pescava con la canna elettrica, io pescavo con una cannetta che mi sono fatto io terminare con 7 anni, ne saliva anche 2 o 3 alla volta, cazzo ti riguardo, Edo prendeva meno pesci di me, alla fine ha detto io che ci spostiamo che qua non ce n'è di pesci, se sto pescando io questo non c'è, e vabbè dai, vediamo se c'è qualcosa di più grosso. Sì, beh, in effetti diciamo, non è che aveva diciamo tutti i torti, perché diciamo non ti puoi mettere lì a pescare dalla barca per dire quando esci fuori a pescare sardine, se vai a pescare ti fai le pescate diciamo con roba diciamo molto, molto più sostanziosa logicamente. Tutto lì, no, ma io ho già sperimentato che diciamo una volta che a Volentino che togli il pesce e lo lasci per dire a bagno dentro diciamo una vasca, io ho una piccola vasca, li lasci lì, li cambi ogni ora, li cambi l'acqua e il trasporto, questo e quest'altro, più preso con la mano ne soffre, non è, infatti adesso voglio provare con la massa. Non sa, ne soffre, tanto sempre in palla deve andare a finire. No, non sarà attorno a me il discorso di andare in padella, quello che va in padella va bene, ok, no, ma io voglio rinnovare completamente diciamo l'acquario, capito? E quindi diciamo per l'acquario è un po' più delicato. Ah, ma certo! Belli visti, sì, è un altro paio di maniche. Sai perché Salvatore? Quando Sandro non c'è tempo di andare al ghero a prendere la barca, ci mette con la canna da pescare l'acquario e pescare lì. Sì, è il produttore, il tuo scomattore, no? Così è. E come fanno le pescherie che ci mettono le anguille e poi rimettono l'ossigeno tutto quanto per vivere e poi quando va a comprare te le pescano da lì? Cappa, no, devo rinnovare anche il polpettino perché mi sta procurando danni, cazzo, non vuole nessuno, non lo so perché, ma... Mi sembra che sia stato un becco, chi è? Eia, buonasera, Barracuda. Buonasera, ciao Antonè. Buonasera, ben ascoltato in quel della Città di Ferro in compagnia di Salvatore e Gianni Doppio Rondo. Avanti Gianni. Ciao Barracuda, ben sentito, cordialità. Avanti. Buonasera a tutti, a tutta la ruota. Ciao Antonello, ben sentito. Ciao Salvatore, buonasera anche a te. Cappa. Ossa, quindi che cosa è diventato scontroso il polpetto? No, ma non lo so, no, adesso per dire quando a parte quando li butto da mangiare tutto quanto, si accapparra tutto lui, si approvvigiona tutto dentro, diciamo, su una specie di brocca, diciamo. diciamo, di quelle vecchie brocche, diciamo, e così via, e approvvigiona tutto lì, incomincia a far casino, a procurare sporcizia, così via, e poi, a parte gli altri pesci, diciamo, che ho, diciamo, li allontana, insomma, sono due cose, mi assumo la Pusci o il vostro rettilio Garori. No, Alcatraz, come vuole fare fuga da Alcatraz? Poi gli hai fatto vedere alla ricerca di Nemo e allora gli è venuta qualche idea bizzarra, o altrimenti si è rotto le scatole. Occhio, occhio a Sandro, che quando vai a prendere non ti schizzi, Vabbè, ce ne abbiamo preso schizzi, capito? Ce ne abbiamo preso. Ma se quest'inverno, diciamo, avevo preso, non so se te l'avevo detto, già avevo preso una sette, l'avevo messa dentro, adesso l'ha uccisa, se l'ha abbracciata, tutta quanta, poi l'ha fatta fuori, e per dirti. Sì, sì, me l'avevi detto. forse non è compatibile con certi tipi di pesce, è un bel affare, dai, di quelli che si accappara tutto per se stesso, per gli altri non le lascia. No, ma invece mi sono nati i pesciolini oggi, e adesso tolto la sala a parto la madre e ho liberato tutti gli altri, praticamente li ho lasciati nella sala a parto, gli ho messo la gratta sopra per non uscire e via. E adesso ne ho un altro bel po', ne avrò una di, no, 16. Quindi ti sei dato l'allevamento, dai, vabbè, ma diciamo la tua composizione è totalmente diversa, diciamo, dai, comunque va bene. Ok signori, io vi lascio perché è pronta la carica, mi hanno già avvisato. Rimetto il mic di Antonello di Vosti. Dai, se qui ci da più tardi, se non buon proseguo di serata, di prossima, vai Antonello. Sì, ti auguro buon appetito. Sei concisa più tardi. Vai Salvato. A passà. Ci sentiamo anche io, infatti, siccome c'ho un po' di fame, le donne hanno fatto la monella e non mi hanno lasciato niente da mangiare. Adesso vado a organizzarmi qualche cosa, perché mi è venuto appetito. Quindi ne approfitto, saluto anche io a tutti quanti e ci sentiamo tra un po'. Vado a mangiare. Sì, allora. Ciao Salvatore, ciao Sandro, buon appetito a tutti e due, dai, e mangi di bocco. Avanti, a tutti. Sì, ciao Salvatore, Sandro, appetito, ripeto, a tutti e due, dai, ci sentiamo più tardi. Devo appoggiare, e tu? Devo, quello di appoggio, già fatto, già, a Mattaviena, tranquillo, e adesso mi siedo una mezz'oretta per una chiacchierata, e via. Hai fatto bene, dai, Antonio. Comunque non so se tu lo sai, poco fa è entrato Massimiliano e stanno organizzando, praticamente ha detto che c'è il 28 di luglio, c'è l'altro incontro, raduno di tutti i CB. E per la storia dove? Sperando sempre fine settimana. A Borole mi pare che lo facciano, penso a Borole come l'anno scorso, perché sono trovati bene sia come ristorante, sia come parcheggio davanti al ristorante, che c'è parcheggio per tutti. E poi a metà strada con gli altri, capito? Si fa a metà strada proprio per evitare di far fare troppi chilometri a uno, troppi chilometri all'altro. Buono, e tu ci vai? Antonio, io ho chiesto le ferie l'ultima settimana di luglio, allora praticamente di giugno e primi di luglio, adesso non lo so se capita in giornata che io non lavoro e cose, perché se di sabato, adesso non ho guardato quale, se sabato o domenica, se domenica di sicuro ci vado, se invece di sabato non lo so, di sabato, chiedere il permesso di sabato da lui è un po' un problema. Vabbè, adesso vediamo un po', se coincide anche a me volentieri, guarda, mi farebbe piacere passare un fine settimana diverso dagli altri, perché no? Giustamente siamo imprevisti, vediamo un po', comunque quando è il prossimo mese, giusto? È fine del prossimo mese? 28 di luglio. 28, sicuramente dovrebbe essere di sabato. Se di sabato non lo so, se sabato o domenica. Se domenica è meglio per me, perché si fa a pranzo, si fa a pranzo, poi l'anno scorso per le 7 erano qua a Sassi, si fa un bel pranzo, ma dura ore e cose, poi si scansa, c'è un po' di gente, ci sono un po' di cibi, di camionisti, tutti i cibi della Sardegna ci sono. È una bella cosa, ma vediamo ancora, già c'è tempo. Vediamo come vanno le cose, perché no? A me farebbe piacere, vediamo un po' di... se riusciamo a coincidere la situazione. No, non avevo, la verità, non avevo sentito niente. Ascolta già, come radio va bene? O devo toccare qualcosa? No, non devi toccare proprio quella, lasciala, così ce la avrei detto. Va benissimo. Quanto stavo dicendo, Antonio, che è stato deciso a giorni, perché ne stavo discutendo anche io con il Giulcal e con... ecco, un corso con Bulldozer l'altro giorno, quando ieri proprio stavano decidendo, poi hanno messo la cosa su Facebook, eccetera, eccetera, e hanno fatto, diciamo, l'invito a tutti i CB. Poi ha detto anche se non sono CB, se sono persone che non modulano, se sono radioamatori, non interessa nulla, l'interessante è che sia gente di compagnia, che rida, che scherza e via. E giustamente evitando anche i casotti. Sì, perché no? Già è una bella situazione. Aspetta, scusami un attimo, già. Ok. Prego, aspetta, Regolata. Sì, sì. Adesso vediamo un po', se coincide la situazione volentieri, vediamo un po'. Sicuramente bisogna dare sicuramente la prenotazione, per evitare giustamente anche casini. E pensa che l'anno scorso 20 persone in meno sono andate. 20 persone in meno. Quindi io gliel'ho detto, io il consiglio che gli ho dato è ritirare i soldi prima, poi se uno non ci può andare, non ci va, per i soldi li perde, c'è poco da fare, perché poi se no ti tocca pagarti anche per quelli che hanno detto che hanno prenotato e poi non ci sono venuti. Vabbè, comunque quelli sono cose un po' burocratiche, si arrangiano loro. Io, se come l'anno scorso, fanno le magliettine, l'anno scorso mi pare che era 35 e preso, poi con 10 euro hanno fatto la magliettina con le scritte primo raduno CB eccetera eccetera della Sardegna eccetera eccetera, e poi con l'ominativo davanti, giustamente cosa, sono pagato a 10 euro, capito? Ma già va bene, ci vorrebbe una maglietta, è la verità, una per Geneto più Room, una per Barracuda e così via, perché no, già ci vorrebbe, sarebbe bello organizzare una bella magliettata per tutti. Poi quella dell'anno scorso ce l'hanno, però era il primo raduno, qui dovranno fare quella del secondo, si farà il cappellino, le magliette, capito? Sì, sì, quello sì, pienamente d'accordo, a me volentieri, se coincide e va tutto per il meglio, io guarda ci vado veramente volentieri. 10 settembre, 25 euro di acconto, e io scrivo il nome e cognome. Scusa che sto parlando come un ciocco. 10 settembre, 25 euro di acconto, e io scrivo nome e cognome, me ne sto occupando io e Gigi Vulcano. 10 settembre, 25 euro di acconto, e detto si paga prima di entrare nel ristorante. Oddio, non lo so, perché Massimiliano ha parlato di luglio. Sono due allora, 10 settembre, a me mi hanno informato da Cagliari e Gigi Vulcano mi ha detto che si fa a settembre, non a luglio, a settembre. Beh, KK, quando risulta sabato, domenica? Spero che risulti di sabato. Però sono sfigato proprio. Vabbè dai, se mi danno il permesso, chiedo il permesso, vediamo un po', se me lo danno. Io non ho detto ancora niente in radio perché è un po' presto, comunque sappiate che c'è il secondo raduno, maglietta compresa, pranzo compreso, sono 45 euro, 25 euro subito al momento che si scrivono. fermi a settembre. Se poi Massimiliano l'ha detto a luglio, questo non so chi l'abbia detto. Dice che c'è scritto pure, che abbiamo messo anche cosa su Facebook. L'ho messo su Facebook, chi è che ha l'incarico? L'incarico a Sassari ce l'ho io, il Gigi Vulcano, chi è questo che ha scritto su Facebook? Vabbè, può darsi che si sia espresso male, non lo so, che abbia capito male lui. L'incarico ce l'ho io e Gigi Vulcano, Gigi per la zona di fuori per i suoi colleghi e io per i cibi di Sassari. E poi lo dico in modo che sia chiaro, perché io seleziono quelli che devono venire, i cibi che devono venire, quindi non è che, capito? Perciò, in modo che poi non ci siano problemi, vengo io, bisogna selezionare, capito? Che non voglio poi avere problemi con gente che beve e fa il vino amaro. Quella è stata una bellissima manifestazione e vogliamo ripeterla così, perciò a buon intenditore poche parole. Vabbè, si stava parlando che era aperto a tutti, poi non lo so come sia la storia. Vabbè, riprendi Antonio. Niente di particolare, ma speriamo se coincide volentieri, mi farebbe piacere tutto lì. Comunque a settembre, già ce n'è tempo ancora. Comunque c'è tutto l'arco di sé, fino a settembre diciamo, prima che scada giustamente il giorno prestabilito, giusto? Sì, sì, io lo sto già accennando, ma ci possono essere delle modifiche, comunque adesso domani chiamerò Gigi a essere troppo tardi. Domani chiamo Gigi e sento se ci sono modifiche. Comunque non c'è nessuna autorizzazione perché nessuno debba scrivere su Facebook stronzate. Questo è per certo. Gigi, ripeto, dato l'incarico a me, considerando il fatto che ho avuto l'incarico anche per gli altri amici di Cagliari, Nuoro e Loritano, e quindi Gigi si occupa di una cosa e io mi occupo di Sassari. Io non ho scritto niente su Facebook perché non me ne frega niente scrivere e lo dico qua in radio. Quindi mi carico giro io, ci sarà una selezione, non è aperta assolutamente a tutti. Gianni. Quindi chi dice coglionante sappi che l'incaricato di questa cosa sono io e Gigi Vulcano. Nessun altro ha l'incarico per il momento, poi non lo so se lo aggiungono, ma ne dubito. Quindi io ho già detto a Gigi che su quello che mi occupo io seleziono. Non voglio mondezza e non voglio persone che bevono e poi rompono le palle agli altri. Questo sia ben chiaro, senza offesa per nessuno. Io sono cattivo, non li ho mai fatto, Cominciate a peccarvi perché sennò mi incazzo, lo sapete che sono di poche parole, ripeto, ribadisco e siccome io conosco le persone, anche se non le conosco perché le frequento eccetera, parlo del mio video, punto. Quindi senza offesa per nessuno, ripeto, ribadisco che il mondetta non ne voglio, mi hanno fatto una bellissima cosa e va ripetuta nello stesso modo, quindi non è aperto a tutti, non è che uno si alza la mattina e vengo anche io, no. Siamo tutte persone conosciute, persone di radio e persone che devono comportarsi in una certa maniera. Quindi questo è quello che penso io e quello che pensa Gigi. Per il resto è noia. Andave. Ma vabbè, al momento si vedrà. Mi sembrava già una cosa, ci sto già pensando. E anch'io mi sto ripensando qua. Cioè, sembra che, mettere in allarme così persone selezionate, persone che bevono e rompono le palle. Io, per quanto mi riguarda, vabbè sì, se capita bevo, ma se a un certo punto si deve guidare, no, però non ho mai rotto le palle, sinceramente. Non sono di quei tipi, se no mi sarei stata a casa già da prima, perché a me, sinceramente, poi fare brutte figure non mi piace. Poi entro in radio, fai un esempio, ho fatto casino in festa, che che facciamo entrare lì tranquillo come se niente fosse? Non sono di quelli, io personalmente. Ma no, io ti capisco, a te a volte scantoni cose che non è necessario neanche parlare, ti stai già peccando di una cosa che ci è ben detto ed è puramente approvato che il primo raduno che abbiamo fatto c'erano persone tutte tranquille e serene, siccome in radio ci sono persone, non parlo di Sassari perché siamo quattro gatti, ma come ha detto Gianni, aperto a tutti, non è assolutamente così. Le persone che si conoscono e che hanno un carattere di una certa maniera non vengono accettate, punto, quindi nessuno ti pensa che a te lo ti accettano ancora. Io non ti conosco, quindi non siamo mai usciti assieme, non ti ho mai frequentato, quindi non mi posso permettere di giudicarti. Quindi Gianni so che non beve, è una persona abbastanza tranquilla e serena, avrà il problema del lavoro e quindi si organizzerà di conseguenza. Altri avranno il problema del lavoro, si organizzeranno di conseguenza, ma quelli che io posso fare fronte e che conosco non ho problemi. Quindi nessuno sta dicendo che tu non sia ammesso, nessuno sta dicendo che tu sia un ubriacone. Perché stai parlando in questa maniera? Non ti capisco, ci stai ripensando. Se non ci vuoi venire, non ci venire. Nessuno sta dicendo niente. No, sto dicendo che tu stai pensando che sia un ubriacone, ma proprio di quegli allarmi allucinanti, porca miseria, io giustamente si fa per evitare casini, giustamente anche col padrone del locale, ma tutti questi allarmismi, porca miseria, ti mettono un po' col punto di domanda, poi giustamente io sto dicendo quello che penso, non sto colpevolizzando nessuno e so che tu giustamente a me non mi stai colpevolizzando, ma ho detto solamente quello che pensavo, un po' tutta questa allerta abbastanza accentuata, mi fa pensare, ecco, tutto lì. Ma tu direttamente, vabbè, sei già vicino della radio, quindi non è che puoi pensare cose diverse. Ma io ti posso dire, con l'esperienza che ho e con tutti i raduni che ho fatto e le cene che ho fatto negli anni e nel passato, abbiamo sempre avuto grandissimi problemi, grandi sceriffate, grandi cose. Erano dei momenti diversi da oggi, perché si poteva bere quanto volevi e creparti, intanto non c'era il chilometro, non c'era niente, ma erano altre cose, quindi lo dico per esperienza, capito? Siccome questa persona del locale ha già detto e ha messo le mani avanti, dicendo sia a Luigi e a tutto lo staff che ha organizzato l'anno scorso che non voleva casini, pertanto le persone sono state selezionate, punto. Sarà selezionata anche per tanto. Siccome già ne avete aperto a tutti, non è aperto assolutamente a tutti, è aperto a persone che hanno un certo comportamento e una certa, insomma, che te devo dire, già ci siamo capiti, quindi tutto qua, poi appena tu sei libero di fare quello che vuoi, io parlo in faccia e dico le cose come stanno, in modo che tutti sappiamo che dobbiamo andare ad un pranzo con la testa sopra il collo, non con le scarpe strette, tutto qua, avanti già. Ma io ho detto così perché ti dico che ieri mi sono trovato con Gigi e con Massimiliano, siamo andati a bere una cosa e stavamo parlando appunto di questa cosa e proprio Gigi ha detto che anche se sono radioamatori, se è altra gente, non interessa a te che siano di Grefa e cosa, dice che non è che ci siano problemi, chi vuole venire avviene. E così ha detto, non è che lo sto dicendo io. Io so tutto, tu eri con Gigi, sono orario, dove eri, cosa hai visto, cosa hai fatto, perché mi hanno detto tutto, quindi io non ho detto orario, l'ho detto tu, quindi so perfettamente che tu eri con Gigi, eri con Massimiliano, eccetera, eccetera, ieri mattina. Il problema è che tanto Luigi forse tu non l'hai capito, l'accesso è a tutti quelli che vogliono venire, compresi anche le rematture. Ma c'è il punto di domanda che quelli che devono venire devono essere persone, ti ripeto, ribadisco, con la testa sul collo, non con le scarpe strette. Perché persone del genere non ce ne facciamo assolutamente niente. Non per fare numero, non perché chi organizza non ci sta guadagnando assolutamente niente, quello che si paga si mette. Capito? I soldi che si prendono si danno, siccome l'anno scorso abbiamo fatto un buco di circa 20 persone, dove hanno detto che venivano, non hanno dato conto e quasi quasi ci stavamo rimettendo noi i soldi, perché se quello e quindi quello voleva subire noi. Perciò quest'anno abbiamo cambiato tattica, si dà conto prima, ok, della metà praticamente, e si seleziona le persone in modo che non siano dei fanfaroni. Aggiungo anche quello, nel senso che se uno dà una parola deve mantenerla, perché molte persone, compresi gli animatori, compresi i CB, compresi anche persone esterne, che qui non ce ne sono, perché questo è il secondo raduno dei CB del nord di Sardegna. Poi se c'è qualche animatore, come c'ero io, ne ho incontrato altri di Cagliari, di Oristano, lì, quindi non ci sono problemi. L'importante è che sì, un operatore radio devi essere una persona seria, questo è quello che più felice. Quindi se sei una persona seria puoi partecipare al discorso, se invece sei un qua, come dice Giuseppe, allora è meglio che te ne stai a casa. Sono d'accordo anche io, bisogna stare tutti in allegria, cosa? Non devono succedere patatrac, ecco che cosa c'è. Si va lì per stare in allegria, per riunirsi tutti e niente, e unire la nostra passione in una giornata di balduria, di festa, ecco, tutto lì. Appunto, perché l'anno scorso non so se ce l'avamo io, Fratello e Gigi e Massimiliano Bulldozer, capito? Vabbè, c'era Costanzo, c'era Giovannino, ma sono tutte persone che hanno un modo diverso di fare, capito? Quindi io a Gigi gli ho detto, dal momento in cui a me mi telefonano e mi dicono voglio venire anche io, se io ritengo che la persona non è affidabile io ti passo la palla, poi tu ti prenderai la responsabilità. Non mi ha detto occupati tu dei CB di Sassari, io CB di Sassari ne conosco 5, gli altri per me sono solo persone che sento in radio, le persone con le quali io posso tranquillamente mettere la mano sopra la testa sono 5, gli altri, consentitemi di dire, sono persone che io sento in radio, dove non esco, non faccio, non mi interessa quello che fanno, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui, dopo queste 5 persone, a me qualcuno mi dice voglio venire anche io passo la palla, quindi non mi prendo nessuna responsabilità, perché poi non voglio sentirmi dire di là, di l'amico tuo si è ubriacato, fai il gallino e queste cose non le voglio sentire, perché l'anno scorso io sono stato da Dio, stavo lavorando alle 10:30, ho staccato alle 11, come sono passato a prendere la falchetta alle 10:30 eravamo a Borore, quindi non voglio avere nessun problema, voglio che sia una cosa come quella dell'anno scorso. Poi, detto ancora, se cose sono diverse, a me non mi ha informato nessuno, quindi se c'è libero accesso, io, fatto la mia operazione, portate le persone che dico io, dal momento che ho fatto la mia cosa, me le lavo altamente le mani. Avanti chi vuole entrare. Buonasera a tutti. Ciao Lisi. Buonasera a tutti, come va? Siamo io, Claudio e Antonello, avanti per chi tu. Ciao Claudio, ciao Antonello e ciao Gianni. Buonasera lì, cos'è lì tu? Strichina. Magari, no, con Luca camminare poco fa. Mentre salutate, dicevo, dov'è quel magone di quello spazzino? Vuole parlare panottino, ho detto no. Non c'è adesso, gli ho detto, non c'è. Ci parli un altro giorno. Non ho capito chi era. Luca Camera d'Aria. Ancora con il fatto da cui esci. Mi che sei stronzo. Forte lì. Già lui dice la casa tua. Almeno è una persona come si deve con in gamba. Se ne fossero come lui. Vabbè, ma è sempre paraculo, quindi lì devo trovare io. Non te la faccio dire a lui al limite se sale. Se avevo la cena qua il mi sembra lunedì e martedì adesso. Già te l'ho fatta baracchino, eh? Qui ci parli tu di sapete di dici tu. Ecco. Avanti Antonio. Antonio, vecchio, avanti. Sta, buonasera a tutti, ciao Cla. Io sono il sesto, mi sono il sesto. Mi sento, sì. Yeah. Vabbè, non la disegna, non c'è problema. Avanti Antonello. Buonasera Pomponio e buonasera Bombolo. Ma hai compreso o no? Tu hai tutto in questo progetto. E ora non tu non sei 5-5, c'è anche tu. Appunto, ma non hai sbagliato il progetto. Va bene, ti ho messo a log, non ci sono problemi. Ti prendi già. Pagato. Andava. Ehi, Alice, allora. Dimmi, io sono qua. Se va a te, va a niente. Io per Dio sì. È la ora. Tutti i giorni stai lavorando lì? Sì, perlomeno per una cosa per l'altra sì. Mattina e sera adesso. Con persone diverse, quindi mi sto ammortizzando, cioè, prima una cosa poi l'altra. Oh, manco male, dai. Almeno sono contento che almeno un po' di aria sta respirando. Almeno ti cambia tutto, capito? Sei meno stressato e tutto. Sei più tranquillo, rilassato. E poi fai 5-5 di più. Così almeno c'è più soldi per far comprare a Monti e allo Stato le 400 macchine che stavo comprando. E domani, già le mangia domani da me Monti già. Oh, sei fresco tu? Sono 80 macchine in garage nuove e ne stavo comprando altre 400. Già la proposta per chi dice che serviranno per pulizia, che non serviranno per loro. È proprio sicuro, Pomponio. Sai cos'è? Già, le macchine vecchie le prestano con le macchine, capito? E le vendono a seconda mano, e quindi ci guadagnano gli altri. Quindi le comprano nuove e dice queste sono nuove e siamo tranquilli, il discorso è quello. Tutti zitti, nessuno ha detto niente, il discorso è quello che ci hanno inchiappettato. Siccome fanno quello che vogliono, l'unica cosa che non c'è cosa bisogna fare. Quando sei senza far niente, ti scrivi politica. Fai come possi, il primo che trovi, quando sei mezzo conto vai nelle cose, dici, oh ce l'abbiamo voluto, fai casino, ma vai, ti leggono e sei a posto, e ti guadagni i soldi, alla faccia degli altri, e li fai tutti fessi. Ma tu che rubati i busci, sei abbigliato di utilizzare le vecchie dalle partiti per finanziarli, perché devono finanziare i partiti? Non lo vedo giusto io, perché i sindacati non si finanziano da soli con gli iscritti, con i soldi che danno gli iscritti si finanziano, perché devi dare i soldi in più al partito? Non ho capito questo. Perché è magna, già lo sai, ci bisogna essere in mezzo, è come il sindacalista, quando tu entri in un posto di lavoro, la prima cosa che ti dicono io, guarda, iscriviti al sindacato, fai sindacalista, sei tranquillo, stai tranquillo, vieni alle cene, mangi con gli altri, così fanno i sindacalisti, adesso senti che cosa, il sindacato adesso vale più un accidente, perché non fa più niente. Per il lavoratore, il discorso è quello, perché è vero. È che non fa niente, sono venduti, noi quello che avevamo come sindacalista si è venduto e capito, l'aveva comprato. E anche gli avvocati sono così, quando ci sono delle cause si vendono e non ti fanno avere niente, non ti preoccupare. Un sacco di cose ci sono in mezzo ormai, anche c'è più soldi, corruzione e basta. Avanti, te la meno tu lavori mattina e sera e te ne sbatti di tutti, te ne sbatti. Tu credi Pomponio che non ti stiano inchiappettando oppure a te? Poco, ma te lo sorprende, paghi la bolletta della luce, la paghi, paghi altre bollette, paghi l'acqua, che c'è la cosa, c'è. C'è una tassa, prendi la birra e c'è l'IVA, c'è un'altra tassa. Tutto quello che prendiamo è tutto tasse, che si chiama IVA. Ti credi che non ti sono pigliando, che non te le stanno perdendo anche a te, a me, a tutti quanti? Ti sono pigliando in mano un culo, ti sono spiegando. No, per l'acqua, per la luce, io piglio per il culo agli altri. Se invece per la birra posso anche pagare l'IVA, non mi sbatto un cazzo, sai perché? Perché a me mi paga il comune, quindi basta fare la domanda al comune e ti paga la luce e anche l'acqua. Sì, furbo qualche volta, tanto come sono ubriachi gli altri, che hanno due macchine e si fanno campare dal comune. Andiamo a fare così adesso, come faccio io? A me la luce, l'acqua e il resto, il condominio me ne paga tutto il comune, io non pago proprio un accidente, pago solamente la birra, quella che mi bevo e basta, le sigarette, boh, e il mangiare. Io invece lavoro e non me lo posso permettere di fare certe cose. Anche se si ricopre appena, sono capo di amare. Sinceramente, ma una minima parte, però non se la prendono sempre. Se qualunque cosa compri tu, vai sempre lì a pagare. Io che stare la tassa sulla tassa. Se poche parole, se dici un poche parole, bisogna pigliare tanto su fare un culo. Se lo dici in poche parole. Sì, ho capito a te, no, perché non c'è un problema, ma spiegami una cosa, come fa il comune, cioè lo Stato a pigliarmi per il culo quando a me mi dà i soldi dello Stato e poi me li riprende? Io non ci ho rimesso niente, se tu mi dai 300 euro e mi ripigli 300 euro, io non ci ho guadagnato niente e rimesso niente, la verità. Quelli lavori che faccio io mi sto bene io, sono non tassati come fanno tutti e tutti in nero. Oh, ma mi fate entrare o devo entrare per potenza qua? Avanti Luca caro. Ho lasciato un attimo di bianco, Avanti Luca. Cazzo, lasciate un attimo di bianco. Se no qua vuoi entrare, devo aspettare due ore. Scusa, perché ti ho sentito solamente adesso? Non lo so, se è fatto perché mi dovrà fare un... Dopo cioè prima sono andato io, va bene. Avanti Luca. Già ti ho detto un passo, però già tu un passo, io va fortissimo qua, Antonello. Ci l'ho passato. Ma tu un passo, io va fortissimo, io va più di fortissimo. Kappa kappa. Sì, se mi parli sopra, come faccio a risponderti, Luca, me lo spieghi, bro. Sono venuto di Iulia, si tende, lasciate un attimo di bianco, lasciate un 5 secondi, 10 secondi di bianco, in modo tale che qualcuno riesca giusto a fare un break. Punta, facevi tu, e cosa devo fare, bro? Allora, così, no, per vedere se riusciva a entrare. Quindi mi volevi passare la verità. Sono piccolino piccolino io, altro non ci posso fare. Beh, sono un malacchino, mi pompo, non so quello che è tutto. Beh, quando sei con te vuol dire una cosa diversa che la ferisco se sono, è una cosa che io parlo col tempo del 9 e a me mi sembra venuto subito, eccetera, boh. Comunque io sono con due fatti, Sì, se la dico, no, vabbè. Sembra così, ma arriva mai forte. La dico. E da quando siamo messo quelle corna, quei radiali che sembrano un ragno, un'antenna. L'ho vista l'altro giorno, ma è un ragno. Cavagava, c'è anche Antonello di Uscia, Antonello. Sì, ci sono, vi saluto, vi chiudo. Ciao Luca, buonasera, sentiamo alle prossime. Antonio, anche a te salutori, dai, non ti avevo sentito, saluto tutti, no, non c'è problema. È che, ripeto, poi fate come volete, non è un problema, ma come sempre lasciare 5 secondi di bianco, quindi non so passaggio mio adesso, no? Lascio, aspettate 5 secondi, va bene, così date anche lo spazio a entrare gli altri, soprattutto i segnali bassi. Concordo, comunque, buonasera e buon proseguimento, ci sentiamo alle prossime. Poi, ciao. Fate come volete, eh? E ciao, noi ci sentiamo alle prossime. Claudio. Ciao, in bianco. Ma che sei molto? Adesso me la metto più. Gianni, Luca, e poi? C'era Claudio, non so se si era ascolta adesso. E poi c'era Antonio, se n'è andato. Luca Manicone, va, non ti arrabbiare che ti fa male al sangue. Ma dici a me già, no, assolutamente, non mi sto arrabbiando. Però te sai cos'è, succede a tutti là. che quando si è preso magari da un discorso, da un discorso anche un po' che fa arrabbiare, no? È un discorso che fanno perlomeno quasi tutte le persone. In questo periodo tutte le persone fanno questo tipo di discorso, che la questione della politica, della crisi, eccetera, eccetera. Allora, ho già detto prima, anche se lasci un 5 secondi vanno bene, dai, 10, così date anche l'opportunità ai segnali bassi, poi fate come volete, non c'è problema, ma non sto incazzando già, ma cazzo non riuscivo a entrare, dico, cazzo non vado a entrare, chi si, boh, di voli. Ah, io qui in macchina ho fatto l'anno. Ecco, guarda, mi due di me devo andare, ciao. Ho visto, quanto ci vuole fare un po' di ordine. Entra due. Ciao Tino. Buonasera, si scappa. Ciao, ti per sentire. Ma non capo la prego, ma che cosa fare? Io abbassa chi lo si comprendi, eh. Ho detto, non prendertela, chi te lo fa fare? Forse lo troppo vicino al microfono. Ah, che vedo con voi, chi sono bebè? Aspettate, no, vecchio. Scusate. Allora bascio. Bene va. Migliorato alla radio. Allora, ti spiego, se tu già hai la voce tipo quella di Claudio, a seconda come lo metti, esci tutto wow, cioè rimbomba la voce, è talmente forte che rimbomba. Ma cacchio, tiro muscolo, non è che. Così va benissimo, ti va benissimo. Poi se tu lo vuoi usare come vuoi tu non c'è problema, ci mancherebbe. E molte volte, a seconda cosa c'è, non si capisce, che è talmente forte, che rimbomba la voce. Come fermi Gianni? Sì, anche a Salvatore la stessa cosa. Io dico solo, io sembra che sia io il caso che voglia fare il polemico, però a me mi piace la radio chiara, a Salvatore lo stesso, spesso succede che ha la radio molto forte e quasi incomprensibile a quanto è forte. No, vabbè già, ma adesso l'ho abbassata, Se sia una voce, sì. Sicuramente poc'anzi ero troppo vicino al mic e quindi magari danneggiavo anziché migliorare. Adesso sentino. Vabbè, riprendendo, allora. Sono entrato solo a riprendere a Luca che stava tirando, ok? Non voglio che sia di. Adesso sono con il che vedo troppo, aspetta un attimo, non lo regolo. Ok. Ok, la poscia. Va bene, dai. Riprendetevela, che sono dall'altra parte. Tanto mi. Se non riprendo vuol dire che mi sono andato a nanna. Io va bene, dai. Allora, buon Corrix, tiro, dai, ci sentiamo. Avanti. Avanti, allora, anch'io come finisco di mangiare faccio le chiappe, arrivo subito. Riprendi tu già. Ehi, che è rimasto? Pomponi, avanti, Pomponi. Dimmi, sono qua. E saluta Tino. Ecco qua l'ho salutato. L'ho fatto salutare io. Saluto un Tino, allora, buon tutto. Mi raccomando, ecco. Non ti abbassare molto di modulazione, se non manco ti sento, Dove va a tentare? Mattina non è stata parola di quelli che si ascolta. Ma se fanno diventare di l'operato. Intanto non risponde. Porca paroia. Chi ce l'ha rimasto? Avanti, a chi tocca? Può entrare. Avanti. Ci siamo ancora, sì. Sì che ci siamo tutti. Mo tutti qui e tutti insieme ora cantiamo Blanco Baldo Show. E qui la festa. Ma qui la bestia. Qui è qui la festa. Avanti, unisciti a noi. Aggiungi un po' sta tavola. Vabbè, buonasera signori, dai. Ho appena finito di caricare qualcosa, dai, di buttare giù qualcosa. Dai. Va bene, ciao Pomponio. Dai, ciao Sandro, buonasera, ben scucito. Come sta va? Sta va bien. E tu? Ehi, vabbè, tiriamo avanti, dai. Tira io così sono contento. Così tanto forte sto già. Dio a te, dunque, Santenna. Io va bene, la cosa faceva di Ali va benissimo. Cazzo, bu. Che non sta passando Luca, la ruota in Balciano. Vabbè. No, lui ci passava, e da lui che lo sentiva a me, ma io sono con due volte e mezzo sto uscendo. Che non se ne va a fare a me, che cosa? Tu mi sento molto, sentivo due volte e mezzo, vabbè. E allora se sono contento, io sei mi contento di quello che sto prendo fresco. Così 80, batte e avanza. Ho visto che l'antenna soffia bene. Dunque le cose che ci ho messo sotto adesso sono con tutto contento. Non mi ce l'aveva bulldozer, un'antenna ancora. Non lungo, ne ho più di uno, vabbè, ma c'ha la B27L, forse quella originale della Inter. Io invece c'ho la B27L formato Mantova, che va benissimo. Lì col telefono. No, non male. E comunque va bene, come l'hai fatto va bene. È chiaro che va bene. Sono contento perché funziona benissimo. Questa è l'antenna che usavo io quando ero in Sardegna, parlavo tranquillamente con Antonello Selvaggio De Rottilli con quell'antenna. Era un divodio. E l'ho tuttora. Lo da che fa un buon bravo, diceva quello. Le tappure per i radiali come le fa? Che ti metta a pensare la radiale, boh. Non c'è bisogno di fratturarmi. C'è una specie di cerchietto sotto, dove c'è un pezzo dove si incastrano i radiali, che è fatto, come ti posso dire, è incastrato. E c'è un valore giusto i radiali. E ci ho messo quello della rampa. Ecco, ma ha mandato la turbo già. E poi li ha avvittati così. Non ho avvittato niente, sono incastrato. Ci sono tre vitti che tengono la testina a tondo e basta. Come può fare il cantonello per dire di Ussi, se vuole. Come ho detto io. Mentre ci va bene con l'antenna per che compa di più. Lui, no, se lo lascio così, e allora lo saluti di qui. Sì, ma Pompù, volendo potresti passarli il dado col bullone e evitare di stringere la piastra di sotto. Sapendo, già capito cosa vuoi fare tu, si può anche fare, non è possibile che anche quattro di radiare su di averne tre, basta che mi metto una specie di aggancio al di sotto e potete pensare di quattro radiali, sì, si può anche fare. Ma poi in effetti ti lavora piano di massa quella lì. Piano di massa. E quindi siccome con l'originale non va in certe frequenze, quindi io ho fatto questa modifica e risuona in parecchie parti e ci parlo anche addirittura. Sembra di avere qualche possibilità, ricordo il Super Digibus. Che va in VHF, andava in 45, 40 metri, questa va la stessa identica cosa, anche in VHF va perfetta, e c'è uno in stazionario. Sì, va bene, dai, già va bene, no, per l'antennino che è nella posizione in cui ti trovi va benissimo, va più che bene. E quello poi vorrei dire quello che ho messo sotto va bene. Ascolto a tutti, parlo con chi mi sente, non c'è nessun problema di QFM, una sento dentro da qua. Con quell'antenna che ho sotto io sento abbono, figurati, Santiago 3. E lo sento chiaro perché mi danno. Ok, dai, vabbè, c'è la posizione che c'è, con quell'amico non lo passi, Cazzo, tutto quello che bisogna passare stavolta. No, ho sentito una modulazione sotto, passo, no, non passi, devi aggiungere per passare. Sì, ma devi aggiungere un bel però. Oh, Antonio, da parte mia già ho passato. Chi? Ti hanno passato da parte mia. Anche dalla mia. Questa è una pugnata alle spalle, però noi vogliamo passare, non va bene così. Mi da posto con l'ignare che c'ho, mi potrei dire uno e passo anche agli altri. Metti a posto già, metti a posto. Che bastardo, che dito, mio parabano. Aia, non provochiamo, non schiacciamo l'interruttore a far scaldare le valvole. Ma ti lo fa calzare. No, schiacciamo il bottone, mica le valvole partono. No, devo fare. Questo bito di passare agli altri, non va bene, non va bene. Perché se voglio posso usare anche 5 volte ti passo come quando, come voglio. E lo sai, con l'alimentatore, con la tarlatta, sei morto. Ce l'hai, che mi passa, sto parlando, non ci vuole modo, sto finicendo. Ma l'alimentatore con la tarlatta, no, no. E scommetti quello che vuoi. In effetti io, già procuro un zio, capito, la tarlatta di procuro un zio tramite l'amplificazione aumenta. Poi si muscio, non passi più. Ma io a me non mi ho fatto un dei così. Non so, non mi è mai piaciuta la potenza, la cosa, me la fattivo. Mi piace parlare, la parata, poi. E altri apparecchi si usano magari quando non ti sento, una cosa, ma non per passare gli altri, me la fattivo assai. Se poi a considerare che in linea d'aria quanto siete? Neanche un chilometro. Di più. E facciamo 2 chilometri. Guarda che gente è più vicino a te che a me, per il mare. No, guarda, stai dicendo lì, cazzo, più vicino a me. Adesso stendiamo in proporzione, cazzo, Porotone, se ingresso Sassari quanto sono? 19 chilometri. Adesso da giorno a te cosa ci sono? 19 chilometri. Scusate che ho aperto, vi saluto con la titola. Buonanotte a tutti. Ciao, caro. Mi raccomando, il nostro è babuccio. Che problema? No, io non spengo niente, sono... Dico QRT, ma sono in QRV. Però al telefono con una persona, sto parlando di alcune cose. Ci sentiamo, prossimi fetture, arrivederci. Ciao a tutti. Ciao, cra, ciao. Non so cosa c'è anche tu. Ehi, Ari, dimmi, io ti ho fatto la proporzione, Protones e ingresso Sassari sono 19 chilometri. Sì, ma io sono più distante, raga, dove abita lui? Sono molto più distante, vai. È molto molto più distante, è più vicino a Gianni. Solo Gianni è come un 31, il discorso è quello. Se lui Gianni esce liscio, lo sapevamo tu anche Giuseppe, rigore di due. Sono uguale segnale. Solo che Gianni ce l'ha manto e Giuseppe ce l'ha vinto. Quindi il discorso è quello lì. Allora vedi. Che non tornano i conti, Se tu mi dici una posizione c'è uno, una posizione c'è l'altro, uno usa un'antenna, uno usa l'altro, cioè, quindi diciamo, non puoi valutare i segnali, come fai a valutare i segnali? Ma c'è qualcosa che ti siete pure da me in mezzo, No, ma cosa la tua amica, è iniziato tutto. E così pare. Gianni, prima ci fa piacere quello che nasco di la mano. Poco fa, lo passo. Io. Mi è disgraziato, sto già disgraziato, non vorrei passare. Pazienza se passa. Purtroppo sono finito, ce l'ha preso. È lo stesso discorso che quando io delle volte sento questa antenna è cazzo questa antenna è buona, cazzo come questa antenna non ce n'è, cazzo per forza, cazzo sotto va sempre un altro, per forza esci di antenna. Vabbè, quello è logico. Se li metti lì, non ti conosci più forte, però se si senti con 5 watt, dall'altra volta cambia, la differenza è parecchia. Sì, ma appunto, tu lo sai benissimo, non puoi fare una valutazione di una resa di un'antenna con 100 watt sotto. Per forza esce bene con l'antenna. Beh, non sì, beh, non sì. La manco vai davanti con la dritta, non posso dire niente, perché usata e usciva esce benissimo, il problema è che qui non la posso mettere, non per questione di, soprattutto il peso, prima cosa, perché pesa parecchio, e poi come seconda cosa, con la luce del lene che c'è qui vicino, prendo la mandetta della 15.000 che non ho idea, invece in questa antenna è molto molto meglio, misura in altre cose, quindi non ho nessun di quei problemi. Prima ti potevo dire, anzi ti posso dire anche tuttora, che quando passava la mantova turbo, che c'era vento, che c'era temporale, era impossibile manovrare. Ma ho capito un accidente, sentivo quel rame, 920 e buh, quasi 80 ti parlo io. Se tanto è parecchio la questione cambia perché c'è i filtri. Ma non è così. Ma se non questo mi trovo benissimo. La verità, è un'antenna che è perfetta, non sento niente, sento solo i segnali buoni, senza avere problemi di alici dell'ene, quando mi fanno scarichi elettrici, niente. E purtroppo qui ci abbiamo quei problemi, qua in questa zona, e quindi ho dovuto fare uno, ho speso di meno, però ci ho guadagnato di più, il discorso è quello. Sì, vabbè, ma non puoi, cioè ci sono tante cose da valutare, ci sono tante cose da valutare, dipende da apparato a apparato, che cosa stai usando, con che cosa stai ricevendo, che apparato è, tutto quanto, per dire io quando uso il 48, cazzo, pacari dai, sembra un cassonetto di immondezza, raccoglie tutto, non si capisce niente. Capito, cambia apparato già è totalmente diversa, quindi insomma è tutto, dipende da quello che stai usando. Se cominci a usare un apparato professionale, se cominci a usare un apparato con le palle quadrate, con la P maiuscola, capito, che incomincia a attenuare, che incomincia a mettere qualche filtrino, e allora la modulazione vedrai che la modulazione vedrai che te la metti, diciamo, a gusto e testo tuo. Ecco. Quanto tempo che c'è questo canale? No, avanti, back. No, giusto per salutare, ciao, qua. Giusto per salutare, mi sto scontando da un po' e dopo il sonoro, perché sto per non fare, sono ritirato, ecco, lì c'è Claudio. Ciao, Fabio, stavo cercando Antonio, però ho fatto un abbasso. Ciao, sono in Corixi anch'io, Fabio. E con quello che so, se ti vado a fare un cuore a parte, io ti amo un po' per non disturbare. Che se lo senti, ma non la fa culo la parte, hai un chiamato me lo so che mi disturba. Vabbè, già vi ho detto. Vabbè, ci sia l'ascolto. C'è Robert Cori che spagnolette e chi stava parlando? Ok, ma tu che non devo dire, c'è la qualcosa stava stavamo quando cercava se non è Fabrizio. Comunque sia. Comunque sta parlando del 70, il 70 è un ricettore qua e non va bene, la verità. Quando sarete il 70, se non avessi messo per dire un batter 40 o un Saturneco, quello che è, altrimenti non va bene. Purtroppo non va bene qua, no, c'ho questi problemi qui e nessuno me li può togliere. Finché ci sono questi calici qui vicino abbiamo dei problemi a carbonati. No, aspetta un attimino, non vorrei capire una cosa, se c'è qualcuno che ha problemi di ricezione, perché ogni tanto sento qualche sovramodulazione. E quindi? Ok, no, perché se si può continuare un po' in questo, lo continuiamo. passaggio del passaggio, ma dopo quando comincia c'è una cosa, cominciamo già a romperci le scatoline, no? Guarda, io mi diverto, perché quando mi sono a me non ci piglio gusto io. Perché subito che si va a lavorare a lui, con 50 tesoro, con la tablata è avvenuta la vita. E poi vedete 500-600 con l'inia non mi frega niente, tanto non passa. E io ci piglio più gusto io. Ok, ok. Va bene, dai, signori, vi saluto. Guardi da parte mia. Buona serata ai eventuali ascoltatori, gli ascoltori e quant'altro. Ciao, lì. Ciao, ciao, ci sentiamo, stai bene, buon quelli che buon tutto, va. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte, Sandro, riprendi il tiro. Riprendi, guarda, stavo guardando un pochino su internet alcune cose, ma con l'orecchio sinistro stavo ascoltando, e ha ragione Sandro, non è che ogni tanto uno se vuole fare un questo o lo fa tranquillo, oppure a rubasso va bene le prime volte, giusto per scherzare, ma quando la cosa è continuativa non è che è bello, eh. Vabbè, dai, Antonè, riprendi. Ma io ci piglio più gusto quando mi passano. Ti avevo ricordato che può fa, ma con noi ti passavano. No, vabbè, cosa c'entra? Anche io molte volte la prendo sullo scherzo, ma una volta, due volte, poi quando è continuativa la cosa diventa pesante anche. Lo scherzo è proprio si che dura poco. Glielo so. Ma andate per cacchi macco, glielo sai. Ciao Fabi, saluto anche a te. Entra anche tu. Sono passato a te, gira quello. Non mi passa quello a me. Sì, me lo auguro, non partecipo, ma comunque sempre. Un po' sotto c'è stato. Una lei? Sì, un nome mi serve. Dimmi che ti prendete voi. Motore 440, 440, 640. E dopo ne fa bene, gli aveva lì, se ne vuoi. 12 grosso, eccetera. Ma siccome fa bene, se ce l'hai tu lo prendi. No, spero di trovarlo di piccino, la roba lì in giro. Faccio un giro, speriamo bene. Andiamo bene, per forza. Ci sono solo da minchioni. È un piccolino, fa schiena di tripiede rimane, quello che fa lo scambio, capito? Ma quello che ti dico, quello che usa che non c'è più, dai? No, c'ha quanti piedi, diciamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piedini, la cinzione e 3 scambi per parte. No, quello non ce l'ho, no. Ce l'ho a 6 piedini, più alimentazione. E anche questo, però ho visto la tira perché c'è anche quello della bubinetta che forse è il però non riesco da dire, forse sono la polce qui. Posso bubinare dentro, se magari ce la provo. Io, così come ti ho detto io, togli anche qualcun altro, ma non lo so. C'è anche quella 12 che usa gli FT7B per dire. Adesso tu hai fatto un giro, sono stato promosso che con questi rari piccoli e quelli neri, là, così 5 volte c'è un problema, ogni volta provarli, come se non a te, con la piedina più lavorare, no? Ma sono neri piccolini, sono? No, è proprio piccolino, di quelli piccoli, là. E non è vero, quindi, forse quello che dici tu una volta il microfono, l'F, mi sembra che sia 24 che ce l'ho io. Allora faccio un giro, speriamo bene, se no si va a vedere su internet e su internet cosa si trova. Controlla. E qua sto facendo un'occhiata e poi sono via. Ah va. Che già. Allora io vi saluto tutti, dai, mi sta prendendo la biocca. Ci sentiamo, buonanotte a tutti e buon risveglio quando vado. anche io vi mollo perché sono un po' stanco. Ci sentiamo alle prossime. Antonè, riprendi, aspetta il saluto e poi vado a nanna. Ciao a tutti. Ciao a Tino, ciao, buonanotte. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte. Fabrizio, dimmi, cosa stai facendo? Ma sono guardato veramente tu. Ciao. Ma non mi sono guardato veramente. Ti sto sentendo, scusami, ma sei qua, come tutti quelli che arrivano troppo forte, non, questo baracchino ha problemi di ricezione, passa un po'. Adesso mi senti? E tu ami che sei guasto forte. Ma tu non pensare perché sei guasto, tanto lo sai. Ce ne sono dei motivi perché sono guasto. Se ti riferisci all'appuntamento è perché ho telefonato a Coso, a Claudio, e non avevo voglia di uscire, poi aspettavo che mi richiamassi tu e ciccio. E se non ti dice, tu ti hai detto vabbè, non chiamo mio, io che non ti ho detto, allora ti faccio sapere, poi aspetto una chiamata in tempi brevi, cioè mezz'ora, un'ora. Non funziona così, capito? Io ti chiedo scusa di questo, ma a seguito del fatto che io non ti chiamavo, anche tu già mi potevi un attimino chiamare, potevo anche aver avuto problemi o no? Ma tu problemi ne hai un bel niente. Cioè io sto per il consiglio comunale, quindi non è che stavo pensando a chiamare o non chiamare, invece di spegnere il telefono l'ho messo in vibrazione, tu si chiama e scompuri. Cioè, poi quando ho finito, sai che stavo uscendo a chiamare, detto se ve lo richiamo un messaggio, gli mando un messaggio, allora usciamo. Non funziona così, non mi potevi chiamare, cioè, se i miei amici che ti chiamano, cosa? Aspetta un attimino, allora proprio per questo, proprio per una questione di attenzione, perché sapevo nel luogo in cui ti trovavi, c'è testimone anche Claudio, quando aspettavo una tua chiamata per evitare di farti squillare il telefono in una condizione dove pensavo fossi occupato, questo te lo può dire anche Claudio, ho detto sto aspettando che mi chiami perché era in consiglio comunale. Il luogo mi... c'è un po' di corsi, acquisciamo, se lo aspettano un telefono, lascio l'uomo in vibrazione, un messaggio, dice non andiamo, un problema, ci sentiamo con calma. Io proprio non capisco, capito, cioè è incomprensibile molte volte. E se mi volevi cazziare io accetto, chiedo scusa e accetto la proposta. Io te lo do 100 volte, cazzo, quando hai a che fare con me, io sono preciso, cioè non è che chiedo una precisione, perché cazzo sono esagerato, però un minimo, cioè se mi dici ti richiamo, ti sento, ci sentiamo dopo, e ci vieni, ti do la disponibilità, ti dico vabbè, veniamo un po', ti faccio sapere, cazzo non aspetto una chiamata, cioè quando sei con me tu, cazzo non hai fatto un cazzo come ti comporti con me, ma comunque io sono con te, io, cioè, non lo so, non scherzare nessuno, ci mancherebbe altro. Guarda, sicuramente, ti ripeto, posso anche aver sbagliato, ma in un ragionamento dove c'era un rispetto del luogo in cui ti trovavi, non è neanche così sbagliato. Dopodiché, se non te ne frega un cazzo degli altri, a questo punto era una cosa che mi potevi dire anche a quattro occhi. Se tu non hai quattro occhi, tu che ti stai dicendo, ti ho solo detto, cazzo, cioè, non te lo sto facendo, se uno ti chiama, ti richiamano, no, non è che ti dicevo, non sto dicendo altro, dicevo che io non puoi ricordare, cioè io sono così, Non riesco a capire l'illogicità, dove la trovi l'illogicità, sapendo che eri in un posto dove mi hai risposto a voce bassa, giustamente, perché ti trovi, devi rispondere, farti una chiamata era relativo, ho detto nel momento in cui uscirà mi chiama, mi sembra la cosa più logica, poi se gli atti di rispetto nei tuoi confronti li prendi come insulti, cosa vuoi che ti dica? Mi dispiace. Non ho attaccato barchini, siedi. tutta la sera mi impana la bocca e non ci parlo sopra il microfono. Ho detto, allora non te ne frega un cazzo. Ho detto, degli altri non ne frega un cazzo. No, non lo sto seguendo nemmeno a te, adesso, Blitta, eh. Ho detto, già capito quello che volevo dire, quel grode. Ah, io non ho capito però quali, prima hai detto c'è lo stesso problema, quale dei tanti che ho? Perché hai detto che ne ho tanti, qual è il problema che hai anche tu? Quello che ti ho detto, stavi scherzando tu e stavo scherzando anche io, quali sono i problemi tanti? Hai detto sì, ne hai tanti problemi, e poi se lo vuoi capire, non so, non riesco a capirti. Vabbè, cioè non fa niente, ti voglio bene lo stesso. Non è come fa capire, non ti sto seguendo, io non lo so, io sto scherzando e credo giustamente, non niente in particolare, perché aspettavo una chiamata, e se io aspetto una chiamata, aspetto ti spiego anche perché aspettavo una chiamata, capito? Un messaggio io, in che senso? Aspetta, adesso te lo rispiego, forse ho sbagliato nell'essere troppo premuroso, però per una volta credo di non avere così tanto torto, ti ho detto, pensando che eri un attimino occupato, ho detto va bene, onde evitare che ti possa squillare, che possa fare pivi, cosa ne so che tu l'hai messo in cosa, per come mi avevi risposto mi sembrava che in quel momento ti stessi disturbando, ma non mi sembra così illogica Fabri, dopodiché se ti vuoi scaricare, vabbè dai, non c'è problema, però anche tu nel momento in cui uscivi mi dicevi allora come siete rimasti? E invece sembra quasi che ti hai aspettato tutta questa cosa per poi farmi questo pippone qua, a torto a ragione che sia, ma io l'accetto, non c'è problema. Accettalo pure, non so cosa dirti, no, non mi stai seguendo proprio, non mi stai seguendo, dai, non lo so, vabbè. Io ti sto seguendo, ti sto dicendo anche che però la ragione non sta sempre da una sola parte, perché nel momento in cui ti adduco delle motivazioni che tu non le accetti mi sembra strano, cioè ti dico, ti ho telefonato, ti ho trovato in una condizione dove mi rispondi sottovoce, mi dici che sei in un punto e quasi ti sto disturbando, cosa faccio? Va bene, è possibile che ti potessi mandare un messaggino, ti potevo telefonare dopo, ma io mi aspettavo e mi telefonassi tu. Però, ti ripeto, mi sembra, sicuramente sbagliando, che stessi aspettando questa cosa e anche il mio ingresso per farmi questa cosa qua. E io l'accetto, non c'è problema. Ma non è che l'ho detto anche a me che volevi telefonare pure. No, scusa, io stavo aspettando una telefonata anche, hai capito? Ho detto anche a Claudio, e tu lì gli dico ancora un giorno, ho detto, e ti sono senti lì, ho detto, dici che non so, qualche battuta ho fatto, non so, di chiamare, di ognuno chiama, non lo so nemmeno. Non mi stai dicendo, se te lo sto dicendo vuol dire che non è la prima volta che l'hai fatto, anche ultimamente ti richiamo, va bene, e lo richiamo, no? Ma questa volta io, per dirti, non avevo chiamato mia moglie, no, per dirti perché mi si sono chiamati i coglioni. Quindi, farei sì che mi stavo per chiamare mia moglie, poi mi sono tempo mi hai chiamato tu, allora avevo chiamato più mia moglie per dirgli che andava a cena, capito? Perché non sapeva come finivo, invece poi finito intorno alle 8 e quindi mi ho temuto, quando non ho chiamato mia moglie, poi, perché mi hai chiamato tu, aspettavo una tua telefonata, capito? Giusto per dire, no? Sì, hai ragione, però un po' come anche tu ieri mi hai detto ci risentiamo dopo e poi non hai più richiamato, ma non c'è problema, a me non mi sembra di averti fatto questo pippone, ma io ti voglio bene lo stesso, anche se non ti capisco, perché il mondo è bello perché è vario. Sì, ma se io penso non ti ho chiamato per lo stesso motivo, non c'è più aver pensato, cioè se quando dico richiamo io richiamo, vuol dire che non ti ho chiamato apposta, no? Non oggi, ieri, o sbaglio? Ieri è chiamato ieri, forse, se ti ricordi bene. Bene, comunque, adesso restituiscimi il rossetto che ti ho prestato. Vabbè, ogni volta si decide di andare da qualche parte, non si riesce mai a combinare, va bene, va bene. Io sono disponibile, mica, io mi aggame, chiamate, però per me va bene, anche perché avevo detto a mia moglie per capire perché mi ha girato un pochettino, io tanto non ho bevuto la chicca di latte, per capirsi, no? Ecco perché sui coglioni girati, perché ti spiego, per capirsi, no? Io stavo arrivando probabilmente stasera, siamo in questo consiglio, farò tardi, perché non so all'ordine del giorno, quando era, ho detto farò tardi, non mangio qui. Poi invece quando che è arrivato il nostro punto, e quindi ho detto, va bene, se ce la faccio stare, perché mia moglie mogli per dirgli quello che ce la faccio a venire a cena. Nel frattempo, due, tre minuti, dieci minuti, mi chiama tutto, quindi ho provato a non chiamare, va bene, allora sta bene, andiamo, usciamo, e tu mi hai adesso sei pronto, io voglio un attimo, sei disponibile, io sei va bene, per me non c'è problema, sono libero stasera, poi dico, non mi sono la telecamata, quello che quando sono uscito erano 8:30, sono ritornato a casa, e c'è un bambino con il tolletto, mi rimane con un gatti che è arrivato, e va bene, ti mai visto, cioè, già mi fa bene, là. Mi ha chiamato, c'era Gianluca, poi stavo chiamando 140 e gli ho detto che non uscivo, quindi non era parte mia, non c'erano problemi, se poi dovevo chiamarti io a te, però bastava due, non ti avrei chiamato, non mi ha fatto niente a me dove sei, dove non sei, no, se devo chiamare io chiamo, non me ne ha fatti niente, come fai, ho chiamato a due persone per una cosa che non mi è andata molto a genio, per una cosa che appunto stiamo organizzando, che poi siamo ricepiti la luce qui, allora il mio capisci subito, guarda le 10:30, 10 e qualcosa, quindi non devo arrivare, non devo parlare al telefono qua, lo batto, non me ne ha fatti nulla, vabbè, sarà per la prossima, comunque non è successo niente. Tanto però, sei sempre lo stesso. Questo è sempre per colpa tua che devi rimanere a casa a guardarti e lasciare raddoppi a casa. L'ho lasciato senza pappa e anche prima dice che è meglio perché dimagrisco e allora mi devi ringraziare, no? Fammi cacciare i problemi per la testa a volte. Sono altre cose più serie e quindi è chiaro che ho un po' le palle girate, quindi. Ma prescindere dalla telefonata ci sono altre cose molto più importanti. Sogni sbadiglio che ha fatto, complimenti. Complimenti. No, Ilaria mi è sembrata di sentire dietro e stava sbadigliando. Ma lei non c'è. Non è riuscita. Mi ama che sta sbadigliando, leggendo sbadigliando. Ma se non fosse la guerra. E non c'è un processo di sito, che l'ho tagliato e sono fallito come scelta. Usando 140 senza processore, ma gente ha visitata con il processore. No, ma ti sento un po' adesso, come fai? Il mio problema, il cliente è barattino, non va a cui, c'è ti sento male, invece è un barattino, non ci posso fare niente. Un rumore, no, trova il mio numero è anche 340. E quindi sto usando il barattino per usare l'altro, che c'è l'altra antenna, capito? E quindi. Per quanto che questo cazzo sia inutile, questi cazzo di altoparlantini non servono a niente. Ho detto che non vuole 440, ma fallo fuori, non se lo passo in felice, non lo sono venduto io. Manco vero mi sembra, guarda. Manco vero mi sembra, fatto fuori, nelle balle, anche se era nuovo, però. Mai toccato, mai cagato, ma non voglio più avere nuovamente a che fare con la radio, per carità. Non è scesa così dalle palle, non viene bene a dirlo. 140 è più che sufficiente e lavora molto meglio di 440, c'è una forza allucinante, tanto sono scuole 180 senza processore, se ti attacco il processore guai, manca il cuba, un'altra cuba, perché cosa c'è di nuovo da venire? Però c'avevo un problema, se ti spiego, no, io ho tolto questo, grazie a Dio, no, perché l'altro giorno ho tutto riallineato, no, ho tolto, faccio il tolto, non lo so, io ho fatto tutti gli allineamenti, per modo di dire, perché qui fuori non aveva niente, ho parlato che così, cioè poche fessie, quindi l'ho fatto perché dopo queste cose bene o male ci riesco a farlo, c'è io gli strumenti, però non c'è nemmeno bisogno, poi mi sono reso conto, però mi sono giocato, ho visto un attimo tutti i parametri, però io un po' di giorni ogni tanto lo stavo facendo, praticamente quando la trasmette è chiaro che non mi rispondeva, guardavo che non saliva la potenza, che non avevo colpiti e ripartivo, poi ogni tanto lo facevo, adesso lo stavo facendo più spesso, poi anche controllando il valore, quello che dicevo che c'è una schedina che fa lo scambio dietro il PL, dove c'è la scheda filtri, c'è un'altra scheda che sarà grande due dita e c'era un valore che non scambiava bene e quindi visto che gliel'ho smontato e glielo cambio via. Queste sono vecchie, ma ogni tanto non bisogna essere accarezzate per farle andare, tu glielo sai. infatti siccome mi interessate anche te di 440 ora mi va a partire, adesso mi piace che il 340 che è quello che ci ho tenuto sempre di più. Adesso con la scheda questo la giornata è chiusa, il culo perfetto, è perfetto, non è fottente, tanto non lo sto volando usando il 440 ora, e adesso vado a partire dalle 850. Sto trattando 940 benissimo, mi avrei un motore di Piacenza, mi ho già mandato la foto per l'850, l'ho garantito, cambia e cambia, non mi fottendo, passo direttamente su una luce perché è digitale, non mi piace, piace 950 digitale. Sure. si organizza il secondo lavoro, per me va bene, l'importante è che ci siano le stesse persone, che non ci siano persone con la quale io debba rompermi le palle, allora evito di andarci, punto. Caffa, no, vabbè, io, cioè, dico solo una cosa che mi sarebbe piaciuto. Se è una cosa che ti fa piacere, non c'è problema. Ti mettiamo in vista. Però ci sono ancora tanti per avere il telefono con alcune persone dello staff, perché sentendo questa cosa mi sono un po' tirato indietro, nel senso che come l'anno scorso non è aperto a tutti, punto. Se qui deve essere aperto a tutti, allora si prende una loro responsabilità. Io non ho più la responsabilità di dire venite tutti, fate tutti quello che vi piace, perché io come persona che non conosco non mi prendo la responsabilità di mettere nessuno. Quello che conosco so con chi ho a che fare, non ho problemi, capite? Ma quelli che non conosco io, non sono mai uscito, non so come si comporta, non so niente, non è mica chi lo vedo lì, a me. Quando mi senti venire l'amico tuo fa bevendo, si è braccato e sta rompendo i coglioni, no, non ho sentito di queste cose, sono già passato negli anni passati e mi è bastata la licenza che ho preso, capito, a parere, non con un anno, ancora con un anno non ho preso, ma a parere ne ho preso tanti rischiaffi, capito, quindi basta così. Sono bravo, io abbiamo già chiuso vanni, feste, controfeste, per stare con persone che non valgono un cazzo, capite? Però se quest'anno si è deciso così va bene lo stesso, per me non mi ha fatto niente. Ah, vabbè, claro, mi sarebbe piaciuto, ci devo pensare, devo vedere. Ti darò qualche risposta, dai, vediamo un po' come. Già lo sai che se io mi ubriaco, cioè solo se mi guardo in faccia, non mi posso mi numare, no? Solo a vedermi in faccia ti può arrivare. Non so se non c'è neanche uno, guarda, era una persona veramente tranquilla e serena che alla fin fine era stata una bellissima cosa. Una bellissima cosa, abbiamo fatto filmini, abbiamo fatto foto di gruppo, abbiamo fatto di tutto, anche perché erano tutte persone grandi e veramente con molta serietà, molta, tutti con le macchine, con i camion, eccetera eccetera, gente è venuta anche la taglia della vita, quindi secondo me dobbiamo andare tutti, però qua tanti si lavorano, penso ci sia qualcuno che scantò. Se qui c'è qualcuno per scantare, no, si arrangia, si prende le sue responsabilità. Quindi fai lì, ti lasci in vista, non c'è problema. Ah, adesso vediamo prima, cla, non ti dico, non diamo garanzie, non te ne posso dare. Adesso vediamo, vedrò almeno 10-15 giorni prima te lo dico, dai, perché io no, cioè voglio essere, cioè non voglio prendere per il culo nessuno, hai capito? Voglio essere molto preciso, non me lo sono sempre stato. C'è per momento, tanto ci sarà una quota di caparra, quindi perché non vuole la perde, giustamente, secondo l'anno scorso con l'altro Pucati, molta gente ha detto sì, tanto per dire qualcosa, no? senza dare niente, e poi ci siamo trovati con 30 persone in me, la cucina preparata, l'inversione è tutto preparato, sono rimasti posti vuoti e le avanza con sacco dopo. E quindi l'organizzazione voleva la quota anche delle persone che non sono venute. Quindi quest'anno per evitare questa cosa si chiede la metà del venuto e l'altra metà si va al momento in cui si entra in ristorante. Quindi se non viene sono piatti sciolti. Sto chiamando un altro punto. Io già lo sai che io molte volte me ne so, perché noi molte volte ce ne siamo, perché non so se c'è la situazione che abbiamo a casa, e così che è capito. Sì, infatti già lo so, ma te l'ho detto, mi credo che è determinato, molto determinato, nel senso che le persone che mi tengo sono persone che io conosco e so che si comportano in una certa maniera, punto. Poi quelle che mi tengo gli altri a me non interessano, l'importante è che io abbia la coscienza a posto e le persone che vengono con me sono persone valide, non è che sto per carità fermando nessuno come ho detto prima, qualcuno si è già peccato, no? non sono problemi miei. Io parlo in faccia, io non le conosco, quindi come faccio a invitarle e sapere che hanno un comportamento giusto, che hanno una cosa da poter far fare bella figura, non lo so, quindi secondo me mi fido, mi sono fidato troppe volte, non lo so come allora, non mi fido, mi invito a quelle persone che dico io, quindi se qualcuno si offende, si arrangi, si faccia invitare da qualcun altro, lo so, mi lui. Oppure si è aperto a tutti, gli facciamo una fabbrica grande, per ognuno si prenderà tutte le responsabilità. Caffa, c'è un attimino che mi preparo il letto, cla. Riprendi il padre. Sì, riprendo io. Riprendo io. Quindi quando è questa roba qua? Così? Quando è questa roba? Settembre, lui qualcuno mi ha detto che c'è scritto su Facebook al mondo, io ho fatto due telefoni questa sera, nessuno ha autorizzato date o mesi, quindi chi l'ha scritto è bene che lo concedi, perché non è esattamente così, si è parlato di settembre perché c'è più fresco, la prima settimana di settembre, quest'anno sarà un'estate molto calda perché siamo alla fine, fra un po' il primo di maggio, ancora le temperature stanno iniziando a salire adesso, perciò si prevede una stata abbastanza calda, farla nel mese di luglio non credo più che sia il caso. Però abbiamo deciso settembre, la prima settimana di settembre, data ancora da stabilire, ma sarà la prima settimana di settembre, quindi da 1 al 10 diciamo, tutto qua. Capito. Io se sono il scendo. Tu ci devi portare, mio amore, a me non lo vuoi, ci devi portare tu. Che palle, e io volevo ricordare, e se non mi porto la patente, ma non lo voglio mangiare, ma io lo voglio bere, che... Invece non so se io non ho voluto mangiando, ma mangiando sotto, perché non avrei dato il mio forchetto, quindi avevamo abbastanza tranquilli, ma non c'è problema, e io non bevo. Non ti preoccupare, mettiamo il prodotto automatico, anzi facciamo, agganciamo la mano dietro la tua, all'Antonio lo mettiamo nella mano e all'Antonio nella mano e tu ci porti. Però la prova, io ho fatto quanto ancora la macchina mia, c'è proprio il problema sono questi costi, se non puoi bere, capito, non puoi bere. Praticamente fabbricare lo scorso è stata una bellissima manifestazione veramente, si è mangiato e bevuto normale, tranquilli, dopo il caffè, la matta caffè, i dolci, tutto, però tutto limitato veramente, c'erano cioè, persone troppo in gamba e siamo stati veramente benissimo, quindi penso che anche quest'anno si possa fare una seconda cosa a quel livello, un secondo raduno a quel livello. Basta limitarsi, non credo che uno si debba fare pezzi, sapendo che deve riprendere il camion e deve guidare la macchina. Quindi, ti ripeto, c'è gente. e siamo stati veramente molto bene, non si è sentito niente, non si è parlato di grado, non si è parlato di niente, di giovanili, di nulla, ci sono solo divertiti. Un bicchiere di vino, se ti blocca non si è fregato la colonna, no? Ho capito il fatto che bevi la colonna, no? Ma ti bevi mezzo litro di vino mangiando come fatti, sono di più, e poi ti bloccano, ti frotto la colonna, mi sta attento, capito? Ma fa mettere il ventino dentro la testa, se pigliamo un po' meno, è risolto il problema, faremo due trompare e andremo due trompare. Fa la macchina due robe e via. C'è la mancina. Se ti ricordi che inizialmente Giovannino aveva detto di uscire, prenderemo un pullman, ma c'è tanto da usare, non è quello il problema. Un pullman, due pullman, vedete, vicino al pullman, lui, dove abbiamo la nostra pullman, hanno per forse più che sufficiente, che si può attaccare, posso anche procurarlo io, non è un problema. Però bisogna che tu mi abbia dato un bici. Lo mettiamo a Giovanni originale, lui non tocca nulla, va bene. Lui non beve niente. Un pulmino, per esempio io faccio un esempio, ci troviamo al quadrato che deve venire, lasciamo le vetture, prendiamo il pulmino e da lì si parte. A una certa ora la sera tutti sul pulmino si rientra. Io ci sto tranquillamente. Certamente, ci può fare la legge un bambino, se non si riesce a trovarlo. Cosa costerà affittarlo una cosa così? Boh, io non ho la più pallida idea. Comunque, buonasera a tutti, Quanto costa una maggiore un 9 posti? 90 euro al giorno. 90 euro al giorno, 9 persone sono 10 euro a testa. Più il gasolio, così è. Sono limitati. Dovranno colpire, lo dovresti tu da colpire. Senti, dovranno entrare a colpire e tu dovresti tu da colpire. Quanto funziona per metà sabato io? Dove dovresti tu da metà sabato, che vuole colpire? Sì, prima di restituirlo, cazzo, ci portiamo un po' di vino, se ecco di Moretto e lo dai a colpire. No, non è problema, ci lascio caldo. La cosa è preventiva. Se vengono a me, lascia che vuole bene, è a voi. Mentre lo diamo ve lo abbiamo buttinato. E allora, a voi cazzo, voi vi come fa, va tu. Comunque, non sarebbe male l'idea, lo sai perché? Perché secondo me ti diverti anche un pulmino, tutti assieme. Importante è che noi abbiamo fatto una volta che ci andiamo in pulmino alla gita. Processore strano. Non mi capisci col baracchino? No, quello è bello, quello è un baracchino che costa. ascoltando, ma con Franco, qua ci sono molti problemi che senza processore, molti problemi che col processore. Perfetto, spingendo sempre le 1080, capito? Spingendo effetto, ma chi non vuole spingere, cioè Mickey Game, mettami, no? Ma te lo faccio ancora, no? Ora, ora, ora, ma io ce l'ho sotto la M, meno di metà ce l'ho il processore. Oh Fabri, ciao, buonasera. Anche questo baracchino non mi piace dove stai uscendo. E ora? Un baracchino mio oppure Fabrizio? No, Fabrizio ho detto, non lo ascolto bene. E ora che ascolti? No, non ti ascolto molto bene Fabrizio, lo sai. Perché io sono quello imperativo, aspetto al basso, poi adesso lo vedo meglio. E un pochino anche io sono col baracchino, alla 48 con 4 watt, come mi ascolti? Bene, tu però come stai ascoltando? Bene, adesso cambio anch'io. Sono bene. È positivo. Dai, Anto, riprenditi là, mi faccio un altro paio di passaggi e poi vado a mettere l'odore di favola e tanto a cuccia. Io sono col baracchino adesso. Perfetto. Mi senti bene? Io mi sento meglio col baracchino, qui sento meglio. Sì. Bravo Michael. Va bene, no? Via, benissimo. E c'è anche Grotte? Niente. Vabbè. Mi sono appena rientrato dalla carica. Ti avevi avvertito? Lascio per la scarica. Avevi avvertito che stavi andando a caricare? No, non ho avvertito, vuol dire adesso puoi dirmene ad un altro paio, dai. No, qua non mi ha fatto niente, lo sai. Le sovramodulati. No, sai. Fabri. Ma stai parlando con un baracchino adesso? Sì, quel baracchino che è il 440, dove ce l'ho smontato. Se ti ascolto meglio con il baracchino per il 240, il 140 è tutto impastato. Ma lo so, io non c'ho l'occato, caro, ma chiunque, non so quanto ti sento meglio nel baracchino, qualche buca. È come un maschio donna e donna, che cazzo, so, però io penso che ti sento molto meglio con questo. Se magari metto un 50, non c'è paragone, però ti ascolto non bene, di più adesso. Oddio, è troppo forte e quindi rimbomba, non so, vabbè, tu mi ascoltavi bene o Massimiliano 140? Però prima, quando c'avevi il processore attaccato eri un po' troppo rimbombante, mi capisco, poi che attaccato il processore ti ascoltavo bene. Io l'ho staccato per farmi sentire a Fabrizio, se no non attacco mai il processore io. Cos'è detto Antonio Mongolo? Rivedi a chi? Antonio, no? Quando è entrato ha detto, no, Fabrizio gli ha detto Antonio, si è rientrato dalla carica, ha detto io. No, vai, io invece gioco a me nel caricato. Ah, ho capito. Così è Grotta. Ma è Cava Roger, intanto ho capito che era tutti contro Antonio, il povero Antonio Grotta, allora ha detto, vabbè, dai, mi assento un attimino. No, almeno non mi mettere in mezzo, perché io non c'entro niente. Peggio per te, se ci ha messo contro Fabrizio, e allora raggiati. Com'è con un maracchino, Gaffa, anche con quello là ci sentiamo bene. E tu come te mi intendi, Claudio? Vai. Cosa? Mi senti col maracchino? Benissimo, ma io ascolto tutti bene. Ho 140, l'ho passato perché Antonio qua Fabrizio non mi sentiva. E allora l'ho passato. Ma adesso siete col baracchino, io ci metto poco a montare l'antenna, non è che devo stare lì a cambiare e fare. Sto andando con la 48 e il Saletta. Papà, ma se c'è stati il Saletta, no? Come? C'è stati il Saletta. Era c'è stati. No, è un microfono semiprofessionale, va molto bene. Ma gamba. Ti ascolto bene, funziona non bene questi baracchini, caspiti no. Anzi, un vibratore sembra cosa che c'è avanti per parlare. Un vibratore. Ehi, siamo appunto a finestrina, tu ti entra in culo, preso la fava. Che sciga. Sono comunque. Ehi, fatto. Poi, tanto, quando lo uso per fare quelle cose, tolgo la spugna, capito? Mamma, comprea più bene. Sono la prima, non ero buca, le devo la cazzo al culo, a tu. No, ma sta venendo l'aria. Ma noi siamo, come dice Brittida, qualche stronzata già si può dire. Va bene, va bene. Ho bilanciato stasera 120 euro, 140 a Fabri. Questo ragazzo l'ha trovato nella sottoscala, diceva pulito, l'ha acceso, funziona, però dopo 5 minuti parte da solo, avrà toccato lo scanner da Judith, parte da solo e si ferma solo quando inserisci il lock. Capito? E l'ha messo come pizzi di cambio non funzionabile. Ah, e gli torna, allora le monga corri se tu riesci a pizzicarlo. Per il momento sono meglio offerente. Ieri è già 123 euro. Quanto? 123? Adesso accendo e lo metto a 140. Non funziona, dobbiamo mettere i soldi, dobbiamo si mettere, devi aspettare all'ultimo momento, ok? Fra 17:53 minuti, ti lasci l'ultimo minuto e fai la tua offerta. Capito? Adesso ti sono tornato e non apparecchi, ma dovete avere da tutto il mondo, capito? Fatti dire cosa voglio fare, voglio iniziare ad acquistarli, farli arrivare. Li metto qua, si sono dato la maggior parte di tutte le fesserie, li riparo, li allineo e me li rivendo. Ma lo tengo, lo metto a posto io, ma lo tengo, ma effettivamente. 123, mi hanno già superato, ma c'era, l'hai letto il mio 120. Però lui più che fa l'offerta, non riesci più a vederlo. Quindi sono, guarda, se guardo, se ci sono 17 offerte, se adesso guardo, G, non da più, non da più come una volta, non vedi più chi ha fatto le offerte, non si vede più niente. E infatti, non mi dava solo scegliere l'offerente e basta. Va bene, 123, e poi domani, tanto prima, un'ora prima, mezz'ora prima, riscudo il colpo, vedi, c'è un po' di ghiaccio. Era 118, io faccio 120. Ed è la migliore offerente, adesso 123, stanno andando di un euro nero. Va bene, non c'è problema. Domani prima delle 17 riscudo il colpo. E vedi che li brucio tutti. Faccio il brucio agli ultimi 5-10 secondi del bruciare, è proprio un'altra, capito? Oppure una cosa che non fa, non ho fatto un cazzo a nessuno, va, però se è pronto che lo stanno cercando, conviene aspettare gli ultimi minuti, gli ultimi secondi per cercare di prenderlo al minor prezzo, capito? Se sono parati 140 anche qua, sì. Perché non sono andato a ripararli, capito? E a costo zero se i finali sono buoni. Fare le riparazioni è una stronzata, quindi si stanno tutti buttando, così con i 4,40, con i 9,40 è quello che sta tenendo un po' di prezzo, 800 euro. Vabbè, questo comunque fa cambio con i 5,40, ma qui non mi pare a me. Sì, anche quello si può fare, no, io sto tenendo adesso un po' sotto controllo, però in realtà italiano, perché alla fine qui si è occupato tutto il mondo, sto cercando di tenere sotto controllo. Quando ti capi fai le occasioni giuste, gli acquisti, perché la maggior parte non hanno niente, capito? Sono anche il problemino, o molte volte li riesci a prendere a basso prezzo, quando arrivano, li metti qua, ti colleghi l'affare, gli danno lo sguardo, prendi il manuale di servizio e gli fai l'allineamento. Una volta che fai l'allineamento, tutto quanto è come il primo giorno, capito? E quindi si può fare e poi lo rivende al prezzo di mercato. Claudio. Ehi, yeah. Io ti volevo dire una cosa, ma tu hai mai provato a attaccare un cavo di lanterna da 220? Da 220? Già, yeah, a vedere cosa succede. No, da 220, perché a 220 è un cavo di lanterna, diventa un coso, un missile diventa l'antenna, si stacca dalle staffe e parte in alto, cazzo, così ammazza che bizzon. Eppure avrei voluto fare quell'esperimento con qualche antenna vecchia, con qualche mano una vecchia, attaccare la 220. Ottima! Secondo me a Fabrizio, lo sai invece voi già bisogna buscarli? Bisogna buscarli di queste schede ECO, schede dei canali, e provare a iniziare a modificarci qualche baracchinetto, così se ci riesce, tipo quelli cold, a fa poco di là, che a realtà se non viene manco. Perché con la presa ci siamo molto mercato, lì basta avere gli schemi, no? I 12 voglia lì che non fai altro che mettere dentro e collegare quattro fili, e ci vogliono gli schemi, bisogna vedere se Google a cercare, non è mai guardato su internet, ma credo di quello trovi tutto. Ma sai Fabri, che qua a Sassari non c'è nessuno mica di fare questa roba qua. Ma non c'è roba di niente che fate queste malattie modificate, che cerca a farle proprio. Allora è uno, ho l'Inter che è come il 68 e il 48 uguale. Adesso lo modifico, vediamo un attimo cosa succede. Hai visto quello che c'ha grave quel 48? Passi la calamita, si attiva tutto quanto. Scheda ecco, però vabbè, bisogna vedere tutti i componenti per fare l'effetto elicottero, la voce più grossa, capito? Tutte queste cose qua. Dobbiamo provare, anche in questi giorni mi scarico un po' tutto, cerco cosa trovo su internet e a cercare, non ho mai qualche scheda, non ho mai fatto niente di particolare, non uso quelli, quindi già si può fare. Beh, poi se lo vuoi vedere uno dentro come è fatto, qualche giorno che ci vediamo lo porto e te lo apri, il mio lo vedi com'è. Si può vedere, ma più che altro andiamo a cercare su internet gli schemi, capito? Allora dentro gli schemi, come si fa, poi ci saranno anche magari tutto quindi si può fare uno, magari il primo ci mettere un po' di tempo, poi ci vorrà fare qualche taratura, qualche allineamento, e così già ci sono gli strumenti per farlo, quindi. Ma si è incastrato, e non uscendo. Positivo. Vabbè, qualche baracchino vecchio bisogna, già ce l'abbiamo per provare. E anche io c'è uno che ho messo a posto, l'ho pagato di uccidere in internet, che diceva non funzionava, che mi ha detto grattino, due cose, l'ho messo in linea, non aveva niente, poi sempre che si rigenera, non avevo un problema, quello comunque perché apparecchi non funzionanti. Il 90% delle volte, soprattutto queste radio HF, il 90% delle volte, se non le hanno scacciavitate, sono riparabili, se si deve trovare le ripari abbastanza facilmente, alcune ci vuole più tempo, però abbastanza facilmente. Se invece le hanno scacciavitate, hai visto. Per un male, se è un danno che non si può riparare, la fai a pizzi e la guidi a pizzi, e ci fai anche più soldi. Perché qui non ho dato la rimessa funzionale, do un'occhiata, fai tutti i parametri, riferi tutti gli allineamenti, vedi un po' quello che è giusto e li rimetti a posto, non ci vuole molto. Sì, infatti, vabbè, ma uno che poi ne sa un pochino già. Meno male anche scacciavitati, secondo cosa c'è, ya si può riparare lo stesso. Ascolta Fabio, io c'ho sempre quel tornado da allineare, beh. Quando ti decidi. Quello che ci volevo fare, il tornado ci voleva. Era un pochino spostato, capito? Era spostato e voleva essere in linea, basta. No, no, quello di cosa di Giuseppe, che gli hanno restituito un 40 canali, quello già del tornado, adesso mi scarico lo schema, aspetta che me lo segna, aspetta se me ne viene, così ho una piattina a vedere, aspetta, aspetta, confis, allora, tornado, che non è tornado, cos'è? Tornado 34S. Tornado 34S, Google. Adesso appena vedo Giovannino mi faccio dare lo schema originale del coso dell'Uranus. Avevo fatto modificare Fabrizio, ho fatto buon illegno, tutto schiera accolti, tutto lo faccio mettere. Anche le ruote per camminare da solo. E comunque davvero mi classe, se si mette tipo come a farle come le fa Roberto, se no che fa dei reali nel 2000, le manacchino, lo già. Roberto, glielo metto solo che i suoi impini e sue cose, io per quello che mi diletto, baracchini, non le voce, non ne frega niente, ma radio HF, quello che posso fare me lo faccio, non è un problema, componentistica. Se capita che riesco a farla la faccio, se no pazienza. Però per il resto non mi applico più di tanto, non mi interessa. Oh signori, dai, io vi saluto, è tardi, e qua sono già tutti a mano, domani me la tarda 6:30. Ci sentiamo, ciao Fabrizio, Antonio Grodi, Antonio Bombo, a te Massimiliano. Capito quello che ti ho detto Massimiliano, se riesci a metterti in contatto con quella persona che ti ho detto, di fare un colpo di telefono, così sistemiamo. E poi un'altra cosa, se dovessi sentire a Roberto, chiedi del mio amplificatore. E perché il numero non ce l'hai a chiamarlo Roberto? Domani magari anche verso le 11 così. Lo chiami per vedere se l'ha guardato, a che punto è, capito? Così lunedì me lo restituiscono. Se per caso l'ha fatto, glielo consegno a Giorgio e poi io lunedì sera te lo ritiro, capito? Provi a sentire a Roberto. E allora domani lo chiamo, che mi ha detto che già non faceva subito, non c'erano problemi. Aveva già tutto, aveva anche le valvole per polvarlo, per vedere un po' come era la situazione. Quindi già lo chiamo io domani, dai. Signori, buonanotte a tutti e ci sentiamo domani. Fabri, riprendi. Ciao, fai riprendere Antonio Grodi, ascolti i finali, poi chiudo. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti quanti, buonanotte Claudio. Anche io ne approfitto, che ne so, e non ricevi niente, anche io ne approfitto per chiudere. Buonanotte a tutti. Mezzanotte 9:25, mandano avanti quello l'orologio. Mi dispiace, il mio non è precisissimo per questo che c'è quello automatico, però dal computer 23:23 e invece il mio è ancora avanti. 23:26, anzi 27. In quello che io ho station i due appesi, perché uno è un'ora avanti e uno è indietro. Per l'ora GMT quando devo mettere il lock. Comunque vabbè. Sempre l'ordine di mezzo, cioè, è tardi per me. Buonanotte a tutti, alle prossime, ciao ciao. Buonanotte, anche io c'ho 26 nel mio orologio, però nel computer dice 23, credo che sia più giusto quello. Comunque, buonanotte a tutti da parte mia. Ciao, buonanotte Claudio. Buonanotte anche a te Fabrizio. Ciao Claudio, ciao Fabrizio, buonanotte e buon lavoro per domani, ci sentiamo. Antonio, anche io ne approfitto che vado a farmi quella scarica e poi mi lavoro e farle. E ci sentiamo a domani se coincide, dai, buonanotte. Buonanotte. Sono a abbondanza c'ha fuori. Massimiliano, me lo sono messo in testa e io volevo fare quello che ho detto. Capito? Fallo, fallo tu. Ok, dai, saluto anche lì Antonio Grode, se in ascolto, di nuovo, buonanotte a tutti, anche per gli ascoltori, e ti auguri di fare un bel ciao. Ciao, buonanotte a tutti.